Fabrizio. No, no, diciamo, ti ho solo avvisato che non è il tuo segnale, però è sempre forte. E mezzo qua sto usando, non riesco a parlare di più, non so cosa cavolo ha. No, la radio è perfetta, sei 9, quasi 9.20, 9.15 sì. Va bene allora, la radio è sempre la stessa, no? La radio è una bomba, sempre la solita, forte e chiara. Va bene, dai. Insomma, se entra qualcuno che ci mette in altri canali, ti saluto. Come mai, ti sblaster? Sì! Cos'è questo? Dove andava il 34. Quello vecchio della 22. Primo che dopo 10 anni di assenza, sì. Questo me lo hai regalato Franco, so che poi si era bruciato nel finale, non so perché. Io l'avevo riparato, poi di nuovo niente, aveva sempre il problema di watt. E un saldatore che avevo prima io, la scalda qua, la scalda là, sono saltate tutte le piste. È un casino come va. Se non vedi è tutto mangiucchiato, sembra voglia trovare i tubi. Addirittura. Comunque già, mi pare che ti ascolti, no? E poi se è un ferruccio, mi pare che ti fa sentire. Infatti, vabbè, fa due chiacchiere, vabbè. Dai, poi è riuscito a riallinearlo in banda, eh? Cosa, Fabrizio? Ma fa, però qua ti ce ne va benissimo adesso. Sei un po' sforzato. No, Fabrizio già si sta pensando bene, alla fine ne cava lo travaglio, molla il lavoro suo, che si mette a primo lavoratore. Fabrizio già una piccola station, ma già. Vorrebbe un pochino più grande, più spazio, comunque già. Quello già è ben attrezzato, dai. Diciamo che ci vuole passione, tempo, tante cose, anche a me piace l'elettronica, non beh, un bel. No, un bel, so che non riesco a cavare le piede con questo malattino. Quella stai inutile, lo apro, controllo, ma tanto non capo vedi. Cosa va a fare? Non so cosa è. Dimmi una cosa, per l'altro che avevi qual era l'altro baracchino del Typhoon? Sono tuo! Eh? Mi hai inviato tu! Quello che ti avevo dato io. E quale che ti avevo dato? Ricordami. Typhoon, ti avevo dato la base, ti ricordi? Ah, quello del Luigi che avevamo fatto il coso, tutto quel giro strano con Salvatore, con coso. E mi ha dato Luigi, sì, mi l'avevo stato dimenticando. Ah, proprio lui. Il Rolls ce l'ho qua sempre bella vista, nuovissima, perché l'avevi fatto le sponde, poi scende la negozio, però non l'ho mai, come si chiama, attivato, ho fatto mille le prove e basta, ogni tanto. Le volevo provare quello del Tanner, però non ha giocato le modifiche di collegamento, per cui ho lasciato attaccato al faccia il Tanner, e questo è in vetrina qua. Vediamo un po', la cassa esterna, un po' malacchino, aspetta, vediamo. Ecco, chiamate. Ciao Roberto, Fabrizio. Cacchio Fabrizio, con cosa stai uscendo? Perché male sto uscendo? No, non è che sto uscendo male, ma non sei tu, la voce è chiara, però sembra un'altra persona. Sto usando un microfono normale, no, è la radio di Luca questa, sto usando un microfono normale perché se no dovrei cambiare i collegamenti per mettere un altro microfono e c'avevo questo che va bene, normale, microfono normale. Già ti sento bene, però non eri tu, hai detto che è strano, Fabrizio, con una radio diversa. No, perché poi io dalla serie del 440.000 l'ho dato via, adesso mi è arrivato un altro, ce l'ho qua sul tavolo che sto provando a metterla a posto. Sono tutta la sera che ho dovuto fare tutti i cablaggi nuovi, adesso qui vediamo. Ascolta, vabbè, ci voleva qualcuno con un segnale più forte per vedere quella roba là. Cosa hanno detto, quella roba di che cosa? A Roberto come lo ricevi tu? A Roberto bene. Ascolta, segnale quando ti arriva? Segnale alto. Allora, sei arrivato e se arriva bene vuol dire che sei a posto. Perché, ripeto, quando ci avevo io, i segnali forti erano. Sì, si capivano, ma non stavo lì ogni volta a attenuare i segnali, cioè. Mi dava fastidio, stavo con questo potenziometro, la base, chiudi. Hai notato il volume, proprio che fa rumore. Quando tu se tu abbassi lo alzi, fa rumore. Prova a accenderlo e a spegnerlo, Fabri. Che rumore ti faceva? Così, una cosa del genere, tipo se fosse sporco. Sì, quello lì ti spruzza un po' di sostanze per contatti. Comunque, poi dietro, ma non te ne ricordi che avevo un problema sul PL che ogni tanto non ti faceva contatto? Quello è! ti ho messo a posto anche quello, c'era, non ti eri reso conto, ogni tanto non ti faceva contatto e praticamente non uscivi. E facevo una antenna. No, era l'apparecchio. No, sì, ogni tanto avevo problemi. Poi io toccavo l'antenna, boh, spostavo un po' il baracchino e andava. Voi sentite un segnale ancora più forte, in effetti un po' c'era questo che tende a... sembrerebbe, ma sembra l'amplificazione, la cassa, posso provare, mi controllo qualche cos'altro lì. Ascolta Roberto, vieni avanti, vai, vediamo un attimino. Perché? Ma stai provando cos'è? Stava saturando, anche a me me lo fa, il patch, quando sono segnali troppo forti devo utilizzare le RFBN e lo devo attenuare perché non ha dei filtri, quando sono segnali furti, questi tipi di baracchini vecchi, è sempre quello il problema. E arriva. Ehi! Vabbè, ascolta, devo mollare perché sta arrivata le pizze, va. Stanno brillando, aspetta. Vabbè, fai tranquillo bambino. Poi di tutta, adesso vai a mangiare, anche io ho un di fame. Vai a mangiare, al limite dopo fare le prove con Claudio, vedi un po'. Se vedi che l'audio c'è per te, è chiaro, eh? Non lasci così com'è, appunto di non ci perde troppo tempo, sopra, che è un baracchino, diciamo, un po' vecchio, dai. Sai che io mi assento che ho fame. A dopo, com'è? Allora, ti fammi liberi di tutto e dopo ci sentiamo più tardi, ecco. Sì, non c'è problema, dai, tengo acceso se puoi entra qualcuno nel frattempo, tanto sono al computer, mi sto giocando col computer. Luca, questo cos'è l'MV più 5 il microfono, quello modificato? Più 4. Per voi è più 4 quello modificato da te? Ma ah, bellissima, questa radio forse una delle più belle che avevi. Dì una cosa, il 14 l'avevi venduto poi? Sì, non ti è rimasto nulla. Ma comunque sono lì, adesso vediamo, dai. Vediamo per un 4,40. Vediamo un po', dai, più in là però, adesso no, non posso. Anche se posso, ma non posso, dai. E a piano piano le cose si fanno, dai. Ok, dai, buona carica, poi semmai se ci sono ancora ci sentiamo poi per Fabrizio, dai. Fabrizio è andata a mangiare dopo, non bella, già faccio chiamare da qua, dopo entra qualcuno, Gianni, Claudio, se ne hanno voglia. Ciao Gianni, beh. Sentito prima di tutto e poi una bella radio, complimenti Gianni. Ok, come adesso lo vedo? Ora. 9 più 15. Sta andando ancora, dai, già sta andando, poi hai capito, c'è cioè, quella apparecchietto che c'è in tuo, cioè quel Royce come il tuo. Quale c'hai? Quello con le sfondine in legno e con i tre strumentini verdi, è stato in base? Ehi, Roberto. Ecco, mi piace, effettivamente è bello proprio da parecchi anni 70, l'albore della, diciamo, della radio CB, è bello, anche se il mio preferito è sempre il patch, quello col frontale tutto in alluminio, con l'orologio digitale a fosfori rossi e certi strumentini, però è bello anche il Royce, niente da dire. Il patch non me lo ricordo, per quello, no? Non è il Sidel Tank per caso, no? No, è facile, l'81-93, è grande quanto è lui, più o meno le stesse dimensioni, forse sono identici, sempre col manopolone grande per cambiare i canali, tutto in alluminio, è tipo, non so se ricordi, Lafayette e Petrus, quelli grandi in alluminio che c'è al fronte, sembra un amplificatore d'alta fedeltà, non è anche un baracchino, perché c'ha tutti i potenziometri in alluminio, ce ne ha 8 potenziometri in alluminio, con i tastini che sembrano quelli per dare gli ingressi audio, e qui c'è il manopolone grande, e tre strumentini che uno fa da coso, da Rosmetro, no, Vacmetro, e poi la cavolo c'è, aspetta, non me lo ricordo, ci sono tre strumenti comunque. Ok, comunque non sto usando il Royce, cioè lui che spendo, sto usando, a uno glielo sto soldato nell'orecchio, sto usando un console dell'SPF. Dell'SPF addirittura, il microfono? Che microfono può avere secondo te sotto? Non lo posto le sue notazioni, per sentire fra bei microfoni pure. Ma con le notazioni ce l'ho, sto usando il Turner più 3, Roberto, Turner più 3. Caccarazza, una grande, bellissimo. No, la radio, complimenti, te l'ho detto, molte volte ti sentivo un pochettino impastato, oggi stai andando bene, veramente bella radio. L'altro l'ho abbinato a Rossi, quello che stai dicendo tu, il telo suo, e poi avevo comprato una BMW più 5 che ha abbinato a Rossi lo stesso, e altri apparecchi che hanno, come si chiama, però devo fare una modifica, devo aprire gli apparati, e quindi rilascio i connettori come sono, robe, e modifico direttamente il connettore dell'apparecchio, così non stiamo facendo mille cose, capito? Modifico tutti i connettori, così ogni microfono che ci entri, diciamo, alla grande, cioè proprio una volta adattarsi, hai capito, quel microfono, e sai che quel microfono lì, lì si adatta anche all'altro, se no bisogna avere un sacco di prolunghe di cosette, e così faccio. La cosa migliore, dai, io non l'ho fatto su Ruiz perché non ho avuto sinceramente tempo, quando avrò tempo lo farò perché lo vorrei sentire col Turner, perché il Turner è uno dei microfoni che si adatta meglio alle radio, diciamo, di vecchia generazione. Poi i microfoni ne ho da buttare, quando capiterà a casa già ti faccio vedere un po', ne ho talmente tanti, non so dove metterli, me ne tengo molti anche solo per fare bella figura, però il Turner di quelli che ho da base probabilmente è quello che va meglio di tutti. Poi ho un po' di Intec, ho l'M600, un altro MC33, questi li tengo qua accesi, e più c'ho l'MB più 4, l'MB più 5, un SDE, come si chiama, un SDE che devo sistemare le connessioni, e cosa c'ho poi? CTE, poi vabbè c'ho quelli seri più importanti, tipo l'MC60, la Donis, ne ho tantissimi in gruppo. Donis ce l'ho anche io, la V508, ok, la mappa l'orologio, ce l'ho messo, si gira, sì, qui è perfetto. Quando cosa facendo pulizia, cosa accanto il coso dell'orologio, no, anche io sono sempre da sistemare e lo schema non si trova, però adesso diciamolo, beh, riesco a sistemarlo perché ho studiato anche, non mi sono approfondito in elettronica, hai capito, e sto sempre leggendo, facendo cose, mi stanno dando anche ottimi risultati, e perché quello schema lì è difficile, bisogna trovarne uno che sia perfettamente a posto e copiare, una volta che uno si copia lo schema, poi il resto è perfetto. Ok, adesso io cambio microfono, adesso attacco, che il Turner più 2 mi dai conferma come va. Così ti guarda anche lì bene. Allora qua come modulazione sei spettacolare, c'hai tutte le tonalità, va benissimo, ti sto guardando l'analizzatore di spettro, adesso guarda anche il livello che non l'ho visto, accendo l'altro. Sei già. Sono abbastanza la modulare tu, adesso quando si chiama lui non si è attaccato, come arriva con questo? Non stavo aspettando la spettro, ho detto, quando ci impiega a cambiare il micro? Io ho cambiato lo scorso, metto l'altro con il tuo cifre, io sono aspettato anche un bel, mi ha attaccato 2 ore, com'è questo microfono? Sei un po' troppo alto, dovresti abbassare appena appena il livello. Passato. Ora, adesso. Ma tu sei, questo è un palmarino, così? Come? È un palmarino questo? Sono il Turner più 2. Dalla Palmo stiamo parlando. E la tele un po' più lontano dalla bocca. Sì, non vero, però guarda, mi sono allontanato, ti dico molto, nella camera, proprio all'altro muro, quando parla, pensa che da giù, se parlano si accende la luce, com'è, com'è? Ma è buono anche questo, non noto grossissime differenze. Fa un passaggio più lungo e poi mi rimetti l'altro e ti dico cosa noto di differenza tra uno e l'altro. Esatto, diciamo, beh, il microfono li conosco, questo c'ha un transistor, l'altro c'ha 3 o 4 sui transistor più 3, quindi l'altro è fatto con condizioni di due sicuramente, ma però all'epoca era questo il microfono che era il mio parto per le due che il fallimento, e a me mi piaceva troppo, beh, non hanno cosa come la Claudio di tenerlo. L'unica persona andrà sinceramente, lui c'è la passione come me, non lo so, ritengo che sia uno proprio che le radio le piacciono, proprio sembra che sia nato lì dentro. Ma Allora, fammi il cambio veloce con l'altro, così ho memorizzato come va questo, subito l'altro. Perfetto, un secondo, ecco l'altro. Questo è l'altro, no, beh. A parlare? Hola, hola, uno, due, tre, prova sempre, sono quasi al minimo. Allora, questo secondo me è migliore, è questione dei gusti. L'altro aveva un po' più di tonalità acuti, se leggermente livello, di livello leggermente più basso, prova ad alzare appena appena il livello o avvicinarti un pochettino. Ora, ora, guarda, ora, ora. No, sei troppo alto così, stai saturato. E adesso? Prova a parlare, fa un passaggio più lungo. Ora, ora, uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova. Questo mi piace di più come tipo di microfono. L'altro era un po' più predominante di tonalità acute e medio acute, ce n'era un po' di più. Questo è un po' più equilibrato, mancano leggermente rispetto all'altro un pochettino di acuti, però è più naturale la voce. Ma mi va benissimo, Robe, quello come dite io, piace. No, ce l'ho, diciamo, sono innamoratissimo di questa roba, Antone, mi porta indietro nel tempo. Io sono qui perché io sto viaggiando 40 anni indietro, mi piace questa roba. Non so se fare i libri che ci sono, diciamo, tra gli amatori o no, sono fissato con questa roba, vedete il canale, cioè è un coro, forse è una malattia, vero? Sono fissato, ce l'ho 03, non lo uso, hai capito? Sono mio, sono un più forse, boh, non lo so, perché è una cosa bellissima, hai capito? Il baracchino, forse perché non sai cose robe, perché io mi ho fatto anche, diciamo, di pensare, sono così, perché all'epoca non disponevo di moneta, andavo a guardarmi le vetrine, e un ragazzino vedevano, quando un domani ho detto questi li ho tutti, così ho detto quello del negozio. Penso che c'erano ben pochi all'epoca di microfoni superiori a quello lì, probabilmente c'era qualche microfono su certi tipi di radio, si abbinava meglio, però come equilibrio generale, diciamo, era secondo me il miglior microfono. Io ho visto tantissimi, ho sentito tanti, l'unico che non ho avuto modo di provare, pur avendolo, è l'SBE, che lo vorrei provare, però ho sentito dallo Shure a tutti gli altri, la Static, l'Intech, l'MSC, cioè, li ho sentiti tutti, però secondo me il più equilibrato, parliamo da livello di baracchini, poi se saremo in categoria è un altro discorso, è il Tanner, è un bellissimo microfono. Poi naturalmente secondo me vorrebbe un pochettino all'interno, per togliere un pochettino di quella tonalità acuta che molte volte predomina su certi tipi di radio, messo un po' di assorbente dentro, di cosa, di ovatta o qualcosa fonoassorbente, e secondo me rende ancora meglio. Sì, questo diciamo che ho fatto un lavoro io, perché sono i microfoni di Natalino, questi miei sono tutti e due in rifacimento, li ho comprati, hai capito, Natalino, siamo amici, lui sta prendendo tutto, sa, e vabbè, te hai dato quanto disastrato, era, c'ha la capsula originale nuova, gli ho messo una cosa fuori assorbente, forse mettendone qualche altro coso, robe, riesci più a tuia, perché ti ho detto, se io lo, diciamo, lo aumento appena appena, che da giù parlano, stavolta il se parlano, mi accende la luce della modulazione, figurati che sensibilità c'hanno, no? Erano all'epoca migliori, anzi, una volta ero la GBC, mi stava comprando il quartz, babbo, per il baracchino, e ha levato, lo sai, il microfono MP2, quando gli ho visto che stava mettendo una batteria dentro, quello da GBC, mamma mia, il microfono vivo, invece, robe, e sono, diciamo, i Turner hanno caratterizzato un'epoca. Poi ce n'erano altri, noi conosciamo questi, però la Static a Tomei non c'è neanche da, io non ne ho mai provato, la Static dicevano che erano dei buoni microfoni. Non sto criticando, però io sto parlando in linea generale come equilibrio dei microfoni che riescono ad adattarsi a moltissime radio, in Italia sicuramente sono secondo me ai massimi livelli, poi sicuramente su un altro, su una radio ne trovi uno che va meglio su quel tipo di radio, però magari lo provi sull'altra e perde parecchio, come lo Shure, su Saturn Echo lo Shure va benissimo, poi magari lo provi su un altro tipo di radio e perde tantissimo, mentre il Tanner è uno che si adatta tantissimo, mediamente va bene su tutte le radio, almeno detto da uno che ne ha sentiti parecchi di microfoni, ne ha visto tanti, poi dimostratemi il contrario, io qua li ho ascoltati quasi tutti i principali e il Tanner secondo me dei baracchini è uno dei migliori. Ok, sì, all'epoca erano quelli, tutti i Tanner ci avevano, c'era anche un SB piccolino, lo sto cercando su internet, è preciso, è quello col pulsante rosso, però è preamplificato. collegato e c'ha la rotellina, è uno di quelli che sto cercando per collezione, piccolino come quello che ce l'ho, però è senza amplificazione, e dico che andavano bene, ma anche il Galaxy c'era bene. Anche? Il Galaxy Saturn c'hai tu? No, non l'ho mai preso, ma all'inizio volevo prendere pure, alla fine ho lasciato, però ho fatto un salto più importante, dai, perché sono quei baracchini molto belli, però costano, se li fanno pagare abbastanza. Ho ne trovi uno sicuro al 100%, tarato, efficiente, perché la maggior parte sono stati toccati e hanno grossi problemi. Il 90% hanno avuto problemi, sono stati modificati, eccetera, eccetera, per tirarne fuori qualche parte, ma iniziano a dare problemi. Meglio trovarne uno buono, ma se lo cerchi buono, te lo fanno pagare non meno di 200-250 euro. A quel punto aggiungi qualcosa e ti prendi qualcosa di meglio, molto meglio. Che io ne ho uno, ne ho. Di Saturn Echo stiamo parlando? Sì, mi ha regalato una persona che ho molta ammirazione, una persona che è tra l'altro il top capito, molte volte mi faccio gli esami di coscienza, mi ha regalato Claudio, ce l'ho io il Saturn Echo suo. Buon per te, no, già ne conosco tante di persone che ce l'hanno, già va bene, anche se è uno scatolone enorme e poi dentro è Bluetooth, tra parentesi, perché lo stesso coso lo trovi sul Pluto, lo stesso circuito senza l'alimentazione è dentro il Pluto, gli hanno fatto uno scatolone enorme che potevi farcelo stare in metà spazio, fa molto, molto scenografico, dai. Oh, mi piace così per quello del bellino, no, lì devo fare come si chiama, stavo guardando la sessione finale perché esce con un watt, esce, lì adesso sto aspettando il mio amico che lui è tecnico dell'arma, che ripete però in continente, hai capito, oppure trovare una persona che ci metta le mani, io saprei anche dopo piano piano, però è una roba diciamo che vuol fatta, è un bel apparato, non c'è un graffio, robe, hai capito, e quindi lo voglio fare bene perché questo, capito, un regalo che mi ha fatto Claudio, ci tengo moltissimo, ci tengo molto, guarda, è un domani, poi ce ne ha tutto, perché, ti ripeto, mio figlio non gli piace, un domani, quando non ci sono più, speriamo che lui abbia lunga vita, lascio a Claudio la roba, è l'unico che può, forse, adesso me li godo io, capito, quanto, perché non esco, io lo sono sempre qui. Hai capito? Poi niente, hai capito? Perdonare al collo dei microfoni, e quelli sono arrivati, qualche, forse non è perché sono arrivati quelli a salve, però non scherza neanche questa Delta, il Bravo Plus, io segno il microfono. Sì, Sadetta lo usano molto, non tanto qua in Italia, se vai in Spagna sono tutti con i Sadetta, sono tutti utilizzano quei microfoni. Infatti io uno me lo, per quello che mi ho comprato, ne ho più 5, un Sadetta più in là se lo trovo, che non sia toccato me lo prendo, è bellissimo, hai capito, giusto per averlo, io una volta non l'ho preso perché avevo pigliato le BB più 5, come è successo Roberto? Le BB più 5 l'ho preso proprio nel periodo che stavamo per traslocare alla casa nuova, proprio come ci siamo scesi, mi ha detto già, scusa Roberto, c'ha l'interruttore, sembra il nostro, non sto passando uno straccio qui, e ha detto già una cosa che devi dire, che antenna qui non se ne piazza, ma parlo qua, vabbè, c'avevo la macchina, vabbè, ero sempre in giro, c'era l'antenna, ho detto vabbè, batti d'oretta, e non ne ho piazzata, allora c'era questo MB più 5 sempre, c'era questo mobile, c'avevo il Consat, lì c'avevo, me ne giro fatto un giorno, lo qui però la parte di Agde, e gli ho regalato due volte, l'avevo acceso me, due volte, però non avevo avuto mai, vabbè, siccome c'era questa porta quella booleana, la frequenza era per la carica, mi provarono a sperimentarlo, c'era un buon microfono, poi l'ho sentito altri, me lo sono ricomprato, e c'ero qui l'uomo di pacca, la Fusaro, e Gian Maria ne stava vedendo due, io pensavo che erano quelli più quattro, altrimenti avevo pigliato la Gian Maria, hai capito, e niente, c'ero lì per collezione, hai capito, intanto lo attacco, e per tornare in Saletta, come stai dicendo tu, anche io non l'ho comprato perché avevo comprato questo, però a Sassari non c'era, l'avevo ordinato questo amico di Ostini sempre per corrispondenza, e ti dico una cosa Roberto, quando l'ho sentito mi ho morsicato le dita. Ma è positivo o è negativo? collettivo, ce l'avevo abbinato a un Inuit, amico mio di Ossieri, Inuit che io ce l'ho questo baracchino qui. Beh, è venuto a trovarmi poco tempo fa per cercare mio figlio, per fare le serate, e così è beggiato come fratelli, ero anche lo suo matrimonio, però il giorno di baracchino ne ho parlato. Ma tu lo sai, ma che c'ho l'Inuit CB294, subito ho entrato il discorso io. Ho detto ce l'hai, sì, però non ne attacchiamo, non c'è più l'antenna. E allora sono andato al microfono, e il microfono ho detto, l'avevo dato, non so a chi l'avevo dato, e ti dico, l'avevo sentito io da Ossieri su quell'apparato europeo, un'amplificazione con l'eco non molto rimbombante, la fine del mondo, Robè. Sì. Ma dimmi una cosa, cambiando discorso, hai avuto notizia di quello che ti ho chiesto ieri o avanti ieri di quella manifestazione? No, ho partecipato perché ero con Claudio lì, di Ferrafa, al bar, poi è capito, è venuta gente, chiacchierando, poi mi è, diciamo, squillato il telefono, dovevo rientrare, vabbè, assolutamente, hai capito, e niente, e no, però quella non è la manifestazione, quella è una riunione che hanno fatto ieri, quindi non è, diciamo, quella manifestazione è data, hai capito, da fare la data, non si sa quando è, hai capito, questa era una cosa, un incontro così, che poi ero, diciamo, stavo chiacchierando di altre cose, mi sono trattenuto ed è andata, hai capito, così, e poi mi sono dovuto rientrare immediatamente. Niente, a me tutte le cose che fanno, robe, che valano a buon fine, mi fa sempre piacere, hai capito, io sono della CP, sono tanti anni, quando però le cose sono organizzate bene, hai capito, con tutti i criteri, le cose di me, ripeto, robe, fatte in fretta, secondo me non hanno buoni risultati. No, non mi riferivo a questo, mi riferivo alla cosa del tuo paese, di Muro, se non parlavo di quella storia lì. Non lo so, Robè, nessuno mi ha chiesto, hai detto, ma chi te l'ha detto? Ho detto, non ti interessa, l'ho sentito, però diciamo, qui c'è una bacheca e anche al tabacchi, domani mattina il mio vicino da Gianni, e da mio cugino, sai qualche cosa, se c'è una manifestazione, c'è, non c'è, hai capito, io quelle fate con le stelle le cose, Robè. Hai capito? Però tranquillamente se tu c'è la manifestazione vieni. Sì, sì, no, ma avevo lavorato anche a moglie, ci facevamo un saltino. A me piacciono queste cose quando ci sono questi mercatini di cose antiche, di. Molte volte ho detto che qualcosa di interessante. Io ci vado, spesso quando ci posso andare ci vado ben volentieri. Tanto che sia una giornata piacevole, che non ci sia una giornata piovosa, se non neanche, ma che non sia all'interno. Ma ci vado molto spesso, ti ripeto, ho comprato anche qualcosina perché sono appassionato di tante cose, molte volte trovi qualcosa che ti interessa. Magari ti può capitare anche il colpo di fortuna, come qualche volta mi è capitato. E io ho letto una guazzalegna di qualche settimana fa che c'era scritto proprio il giorno 15 e il giorno 16 a Muroso c'era questa manifestazione di mercatino delle attività artigianali e antiquariato, di gente, siccome ne avevo visto una tempo fa, cosa, ne avevano fatto una Olmedo ed era una cosa veramente bella, mi è piaciuta, dentro una sala enorme c'era un po' di tutto, dalle radio fino a finire ai giornalini, alle immaginette, santini, di tutto c'era, bella, e sperando che sia una cosa del genere. Radio non penso che siano, sono l'unico il paese che ha le radio, non penso che, no, diciamo che io non lo so di questa roba, anche perché oggi, vabbè, sono uscito, ero a Monte Stocco, vicino a Porto Torre, sono andato con la scuola a portare la scolaresca delle medie, e niente, quindi stamattina non ho fatto niente, comunque devo rimanere a chiedere, domani te lo dico di persona, perché devo venire a Sassari, devo andare a Brava, devo andare domani mattina, e quindi se ci sei passo anche a trovarti. Sicuramente, vabbè, presto mattina devo andare all'ufficio entrate, sperando che non mi trattengano troppo, perché ogni volta che vai di a fare un documento, una cosa, ci perdi mezza giornata. Comunque prova, diciamo, prevedo dopo le 11, sicuramente ci sarò. Tanto vado a ascoltarli, Robè, perché non sono lascia sulla app, hai capito? E niente, questa roba adesso tu mi messo questa voce nell'orecchio, adesso sono anche incuriosito a sapere se effettivamente c'è o non c'è. Ma mi stai parlando perché anche tu hai passato di radio d'epoca, sì? E radio che cosa? Radio d'epoca, parliamo ricevitori. Ma di quelli casalinghi? Casalinghi, dico. Ma non te la regalo uno, se vuoi. Dai. C'ho un minibar qui da nuovo preso, un mercatino, è sempre lì, non mi interessa più di tanto. Te lo regalo, Robert. Bravo, eh. Yeah. Lo sai quante ne ho c'è di radio? Di un numero. Non lo so, Robert, no. Tu sei come io, sono appassionato, hai capito, di anche di baracchini, però no, questa roba non ce l'avevamo noi in casa, lo sai che te l'ha trovato, perché mamma ce l'aveva precisa quando eravamo piccoli, ogni volta che la vedo mi metto a piangere, capito, e la voglio, te la regalo di cuore, ce l'ho qui vicino, dove sto modulando, ogni volta che vedo quella radio mi viene da piangere, cioè, mi ricordo dei tempi passati, l'ho presa per quello, allora si trovava a mamma, poi ci metto gli occhini e mi fa male quando la vedo. Ma ti ringrazio anticipatamente, cercherò di ricambiarti. Ma dimmi, qual è con la cosa a base di legno o quella in plastica? No, non è una specie di plastica, è lì fare. Un ricevitore c'ha tre pulsantini, a valvole però. Sì, no, che sia una valvola, transistor, no, non è che mi interessa. Io ne ho un 35 di radio più altre cose, parliamo di radio quelle all'interno da quella casetta, diciamo, quelle a chiesetta, non a casetta, fino ad arrivare a quelle un po' più recenti, ne ho di diversi tipi. Purtroppo, vabbè, spazio ne ho tanto, però sarebbe bello metterle tipo un museo, proprio fare una cosa, come si chiama, del genere, nel senso farle vedere, perché io adesso qualcuna l'ho tenuta qua su a casa, però le ho portate in un altro locale e sono tutte coperte, perché in casa non c'ho posto dove mettere, se no l'avrebbe messa in mano in casa, ma c'ho talmente tante cose da far vedere, ci vorrebbe un capannone per farle vedere. Stamattina mi hanno fatto un bel regalo, che gliel'ho chiesto e mi hanno portato un telefono satellitale. Come è del 1990 questo, è una stazione satellitare, adesso vabbè, tu li vedi quelli che portano i clandestini, una cosa del genere, cioè presente tu quando fanno la tratta dei clandestini sono molto miniaturizzati, questa è una specie di valigetta che dentro c'è questo telefono con un amplificatore, una cosa del genere, ma grosso, mi peserà almeno 7-8 kg questa roba, più la cornetta con la tastiera digitale e ti connetti al satellite. C'è un'antenna particolare, connessione via satellite. Ho capito, me la volevano regalata, a volte non l'ho voluto, è nata un'altra persona, ce l'aveva un amico mio che c'è Pulma, ha detto lo vuoi, ce l'avete mille fatto, un barrasole, praticamente può essere, diciamo, grande, come ti posso dire, più grande di un baracchino di macchina, la corro, la valigetta. A voglia, cavolo, se c'è presente un baracchino, un 140, un 440, ce l'hai presente le dimensioni? Io non c'è quello, no, io non le voglio quando, non mi interessavano per queste cose, non mi interessavano, capito, però volentieri, ho detto che c'era un'altra persona che stavo facendo gli occhi, vado a darlo a lui, se lo vuole, che a me non mi interessa. Questo l'ha preso in Canada, tutto certificazione, c'è poca di roba, perché era prima l'unico sistema per trasmettere quando sei in oceano, secondo questo era imbarcato, diciamo, andava con le barche, con le navi, non le barche, anche navi, cioè rimorchiatori, tutto il mondo ha girato questo, negli Stati Uniti, Canada, Golfo Persico, e per essere con le comunicazioni, per parlare doveva utilizzare soltanto questo tipo di coso, a meno che non andavi su utilizzando i mezzi di radiofonia, però per parlare come parliamo noi adesso con i cellulari era l'unico sistema per utilizzare questi telefoni satellitari. E poi tempo fa, però l'ho messo da parte perché non so dove metterlo, mi hanno regalato un telefono con i sistemi di telescriventi RTTV che facevi, trasmettevi col baracchino, con la tastiera, eccetera, la bassa definizione, col TV a bassa definizione. Like. confondendo. Siccome questi stessi telefoni sono molto simili ai primissimi e sono usciti che si mettevano all'interno della macchina e li utilizzavi come telefoni normali, anziché usare il cellulare leggero e maneggevole come adesso, prima ci voleva un bello amplificatore, c'era una cassetta grande dietro con le batterie a coso, a nickel cadmio, eccetera eccetera. Questo è molto simile, però non c'ha niente a che vedere, perché c'è un'antenna sua specifica per i satelliti, cioè funziona via satellite, non funziona via ponti radio questa. Per cui se tu ti trovi in qualunque parte del mondo, dell'oceano o della terra, ti connetti al satellite, naturalmente ci vuole un abbonamento, perché mica ti metti a parlare così, devi avere una carta di credito con tutti i codici eccetera eccetera, prendi questa scheda prepagata e ti connetti al satellite, ti danno i codici di accesso e tu entri via satellite. Buono, buono per la truppa come ci chiama, e io voglio vedere truppo, voglio fare giusto a titolo di curiosità, ho tante cose che ne hanno fatto, roba io adesso sto leggendo anche delle libri che mi sto collegando, anzi non so se ti stai collegando a introni sul computer, sono tutti questi libri di cura elettronica e mi hai messo un po'. No, no, io ho detto, sono appassionato da sempre della radio, di tutto quello che si parla, cioè della radio, la tecnica, eccetera, eccetera, ho tanti libri, riviste, eccetera, eccetera, ne compro di continuo, soprattutto su argomenti che interessano a me. 5 elettronica non ne ho tantissimi, me li hanno più che altro regalati, ne ho comprato qualcuno, però me ne ha dato un bel pacco Salvatore Maestrale, te lo dico da Salvatore, prima di partire me ne ha portato almeno una cinquantina, però mi piacerebbe averle quelle vecchie vecchie degli anni 70, 75, c'è dagli anni 80, quelle che mi ha dato lui sono tutte recenti, dal 2005, 2008 in poi. Io vorrei qualcuna di quelle vecchie, proprio dove era grossa grosso il volume e c'era un sacco di informazione. Ok, non me la dopo, il computer non lo usi, collegati, adesso il computer lì ce l'hai. E io? Allora, vai su Google, metti vecchie riviste e collega poi ti appare entro i vecchi riviste. Ti colleghi su tutti i 25 elettronica dagli anni 60 adesso. Ci prova, sono. Poi non entriamo nel merito dei fumetti, perché io sono grande appassionato di fumetti, ho delle collezioni particolari e c'ho molta, molta, molta roba, anche qualcosa di importante. Sono grande appassionato di fumetti d'epoca. E quello di Babbo, come portavo di Abuli, di Crimina, sono sex, non le hai ad accetto pezzi di pazienza, non volevo la mancata di quei fumetti lì. Però Tex c'è un po' un capitano Black di quelli lì, hai capito? E come allora, diciamo, gli editori erano un pochettino ignoranti come... E adesso ce ne sono un po' di peggio di cose. Niente, non è per quello, non ne ho... C'era questo compagno mio di scuola, c'aveva tutte le... Allora, all'epoca, tutte le collezioni di diabolici. E lui diceva, ma con quello ho detto, già, a me era anche dei gusti interessa. Hai capito? Ne avevo tanti, poi tutti regalati alla fine, le uniche cose erano quelle lì, i giornalini capitamenti. Ok, non fatto quello che ti ho detto. Ce ne sono tante di qua, c'è sentito perché diviste di elettronica e di elettrotecnica anni 60, non mi stesso male con il tempo me lo guardo, ce ne sono, c'è un po' di roba di queste affari qua. No, no, io specificatamente su Tex, c'ho, oltre alla collezione ho i pezzi rari, diciamo, quelli particolari che non si trovano facilmente. Ogni tanto mi metto d'accordo con qualcuno, l'altro giorno è venuto un tipo che poi è venuto il discorso, uno di Perfuga, che a lui interessano delle cose che ho io, e poi è venuto il discorso e lui c'ha delle cose che interessano a me. Ha detto a me, qua soldi non è bullo, ci mettiamo d'accordo, tu mi dai questo, io ti do quello. Fammi un elenco di quello che c'hai e io ti posso, e poi ci mettiamo d'accordo. Molte volte fanno degli scambi, hai capito? Io diciamo che ho tutti i dati, quelli in text, quando do una cosa lo ricuore, loro non me ne fregava nulla, questo però che ci vuole collezionare, quindi non ne sa con capire, poi lui, aspettami, ho un giornalista in soffitta, allora si trova con mamma ancora, è che te ne chiamo un giornalino, il cadi lo capirà, adesso qui ti è ancora piena, vabbè, c'è un sacco di roba, sei, non ho mai che toccata mia sorella, quella casa, e già se la pulirà lì. Però perdonati a dire, ci sono gli appassionati, vai, che le manca anche due. soprattutto quando uno riesce al suo intento, dove una persona più felice del mondo. Ma io il problema mio è che sono appassionato di tante cose, di decine di cose, di tante cose, e non riesco a buttarmi su una cosa perché poi mi stufo di quella cosa lì, ne scopro un'altra e passo all'altra. Sono tanti hobby e tante cose, tante passioni, per cui non sono di quelli fanatici, per dire, se si buttano sulle radio si spendono un patrimonio per comprare le radio, vanno solo su quello, poi alla fine dice ma dove me le metto, e se le conservano dentro un coso magari. No, io prendo un po' di radio, le ho prese di lì e basta, mi sono fermato lì, però non esci più, tipo come Franco Bulli. Se ti metti a fare Franco Bulli o ti specializzi su un tipo di Franco Bollo, su un settore, se no non esci più, ce ne sono miliardi. Così mi piacciono tantissimo gli orologi, sono grande appassionato di orologi, però meccanici parliamo, e lì ogni tanto, mica l'altro giorno me ne hanno dato uno, un bel orologio, un amico, uno Zenith, però parliamo di meccanici, non orologi al quarto. Al quarto ne ho tantissimi, ma più che altro per questioni di comodità, non per bellezza, diciamo, di valore di orologio. Ah, con c'era lo Zenith meccanico, me lo volevo dare l'altro giorno, ho voluto, lo porto via io, c'ho gli orologi meccanico, che me l'ha regalato a nonno, quello che ha anticipato, e poi c'è il suo orologio VV, che è meccanico, sempre un VV di Babbo, che quello se lo sa Babbo, me l'ha regalato a Roberto, vado a pescare in coste e mi rimetto con l'orologio al polso. Non l'ho fatto a tempo, ci l'ho aperto a fare scendere, però è una roba che uno ci vuole l'orologio, è quello del mondo, pezzo per pezzo, e lo rimetta a posto, però c'è una cosa di non nel VV che funziona perfettamente. Sì, anch'io ce l'ho, Revue, Tissot, Longines, Zenith, ne ho diversi tipi di orologi, diverse centinaia, ne ho, dai, non diciamo altro. Ok, io ho di quelli da collezione meccanici, però di quelli comprati nell'edicola meccanici, però non giova nulla, robe uso. Vabbè, quelli sono tanti così per fare pubblicità, dai. Non possono neanche mettere il marchio vero di quell'orologio, cioè magari il quadrante è di un orologio di prestigio, per dire, di un certo pregio, però il movimento sono quelli fatti in Cina che non valgono niente, per cui è solo così averceli, per dire, un piccolo appassionato se li mette una vetrinetta e basta. Ma stiamo parlando di giocattolini, io parlo di orologi. Infatti l'orologio vuole, è capito, buono, è capito anche non fa tacche, e c'erano quelli per rompiali, ma ne ha due, ecco, uno di quelli voglio. Avevo un mio figlio che mi ha regalato uno da tasca, tutto d'argento, e poi ne ha altri due da tasca, io uno da poso, uno è per sé e un altro dentro, non mi ricordo, proprio quelli del capo lavoratore del Ferrovie dello Stato, e capito, e niente, no, beh, però io ero detto così, mi poi diciamo, se li prende mia sorella non mi interessa più di tanto, hai capito? Pace e bene sempre, però uno di quelli ferroviari mi era piaciuto quello. Sì, io c'ho il roscafo, quello in argento, e facevano le billetterie sui dei coso, degli orologi, sempre della ferrovia. Tieni presente, non sono orologi di prestigio, ne hanno fatto tantissime edizioni e tantissimi modelli. Sono orologi abbastanza economici, però qualcuno li vede belli, grandi, in argento, col quadrante in ceramica, fa bello effetto. Però a livello di qualità meccanica è abbastanza economico. Non è paragonabile minimamente agli orologi di pregio svizzeri, diciamo, di grossi marchi. Infatti. No, l'orologio, quello proprio si chiama proprio rosco, come si chiama, proprio così, quello d'argento. Antonello, ti voglio dire una palla, però mi sembra che è proprio quella marca lì. Sì, Roberto comunque, non Antonello, ti sei confuso. Mi sembra che è proprio quella marca lì, io, diciamo, non è che ho questa passione proprio per gli orologi, però mi sarebbe piaciuto, ho detto, se Babbo me lo regala uno di quelli. Sì, è bello, guarda, serve un consiglio da amico anche per, come investimento, quando trovi orologi meccanici prendili e mettili da parte, cioè solo aumento di capitale nel tempo, perché col tempo scompariranno i meccanici, nel senso verranno rivalutati tantissimo, adesso stiamo andando tutto col quarto, orologi digitali eccetera eccetera, che non valgono niente, sono molto precisi e basta, ultra sottili, però a livello di qualitativo non c'è niente, ormai integrato per tutto, ci mette un display, un contattore e ti legge tutto quanto. Beh, adesso sono collegato al computer e mi ha mandato proprio in questo momento un messaggio l'amico nostro che si è trasferito in Austria, Salvatore Maestrale. Dove cos'è Salvatore? Austria Salvatore. E a me adesso, io me l'ho fatto un apprezzamento l'altro giorno, mi ha risposto, e adesso mi lo saluto anche da parte tua, ero qua col computer acceso, con la mail, e mi ha mandato un messaggio adesso. Saluta da parte mia anche Salvatore, un abbraccio, capri tu lo abbraccia di lei. E io, una grande persona Salvatore, dai, un po' per certi momenti disordinato, dai, però molto generoso, bravissima persona. La muovo il Nino, lo vedo. Scusa? La muovo è andato lì. E ha mollato, cambiato generalmente, totalmente stile di vita, dai. Ha avuto delle delusioni e delle cose che non sono andate bene, ha detto cambio vita, mi trasferisco, dimentico tutto, bene e male, e vado a rifarmi una vita di lì. Capito l'importante, sempre che vada a buon fine la roba, hai capito? La vita è piena di amarezze, anche non è tutto oro quello che luccica. Aspetta che mando i saluti a Salvatore un secondino che li scrivo da parte tua. Sì, gliel'ho mandato, adesso sicuramente mi risponde. Dimmi un po', Gianni. Dimmi dove, cosa vuoi sapere? Che avevi detto tu? Cioè avevi un ricevitore aeronautico, qualcosa del genere, tu me l'avevi detto chi? Ma non ce l'ho più però, no, un BC312. Ah, l'avevi dato via? Venduto? L'ho regalato a Claudio, hai capito? Era lì, no, così lui è appassionato, è tutto prendi, capito? Non mi stavo liberando di queste cose, allora è un po' con te, i baracchini me li lasciano, sono tutti baracchini, hai capito? Ma si trovano, in qualcosa si trova, c'è un amico mio che il maresciallo, il carabinieri, lui ne ha tantissimi, dico, quando viene, solo che non è più venuto, perché dico, mi serve questo, me la spedisce, hai capito? No, non ne ho problemi, robe. Io, diciamo, troppe cose, come te, su troppi troppi, ai baracchini sì, però me ne troppo, capito, in troppi, su troppi troppi, in ogni cosa. Beh, hai risposto adesso Salvatore, tanti saluti dal nord Europa, qui stanotte siamo a meno 18, cacchio. Io che sono contento Salvatore, no, che sia una cosa, diciamo, duratura e che sia bene, capito? E quelle cose lì, perché uno quando lo conosci, diciamo, poi fa sempre dispiace, capito, se si trova in situazione. Vabbè, io perlomeno l'ho preso così, come si chiama mio, che ciò, hai capito, sono una persona molto sensibile, vabbè, hai capito, anche io ho le mie, non è che io sono un santo da mettere nei mobili, però diciamo, poi mi passa subito e capito, sono contento, l'importante è che sia una cosa che sia andato per stare, diciamo, a suo agio. Sì, sì, dice, ho un po' di difficoltà all'inizio per la lingua, ma piano piano già si abitua, dai. Cazzo, non è come quello del figlio di questo, il figlio c'è mio padre, se è andato in Cina questo qua, un coraggio questo ragazzo, è partito, 6 mesi è rimasto in Cina, si è laureato, ha preso la laurea breve in lingue orientali, in cinese in particolare, è andato lì 6 mesi, così, 22 anni c'ha questo ragazzo. Purtroppo, hai capito, per le lingue bisogna, hai capito, andare proprio, se uno vuole perfezionarla nei posti dove si parla. Stavo dicendo, almeno il giorno di Capodanno siamo lì, Robè, ci inviterà a vedere l'orchestra di Vienna a quel concerto, sempre un sogno quello lì, mio Robè. Lo sai quanto mi piace quell'orchestra che suona a Capodanno, mi commuove talmente bella, quella l'orchestra però che suona proprio da lì, dall'Austria. E poi loro, guarda, l'Austria, io ci sono stato, è un bellissimo posto, gente lavoratrice, scrupolosa, non c'è ne gente mandrona che sta in giro buttata per le strade di lì, vabbè, c'è la notte per freddo. Però io quando sono andato di lì poi c'è una, come si chiama, un senso del rispetto delle persone, delle cose. Qua siamo tutti randaggi, mi ci metto in mezzo io, tutti sporchiamo, rompiamo, lì non c'è una panchina sporcata, tutti le gabine telefoniche ordinate, tutte le cose pulite, i muri, non fa. L'altro giorno ho passato ieri in una casa appena verniciata, subito impiastrata con questi spray. Siamo una massa di maleducati. Io lo sai, sono ragazzi, diciamo che c'è una educazione, io non ne hanno mai fatto, no, assolutamente no, però dai padri genitori c'è un'educazione, hai capito, parlo proprio di civiltà, di cose, perché io abito di fronte alla piazza, come ti ho detto sempre, però ogni tanto con quelle bombolette adesso non lo stanno più facendo, però hanno imbrattato muri, hanno lo, guarda, ho dovuto buttare giù l'intonaco perché queste cose non è più, non è che le cancella le robe. Cappa. Comunque fammi sapere di quella roba già, così non faccio un giro a vuoto a Muros. Di mattina mi informo, ti vado giù. Mio cugino c'è il tabacchi, c'è la bacchetta, e vado e tranquillamente robe, guarderò, diciamo, se c'è qualche cosa di quello che stai dicendo, ma se tu l'hai detto, non è che hai detto Mores per caso, no? No, no, muro, sono sicuro, l'ho letto, infatti lo sto aspettando con trepidazione, diciamo, perché volevo andarci, così è la scusa per avvicinarmi, che sono a moto, che non ci vado a Muros. Sì, perfetto, il sindaco lo conosci, no? E chi c'è? Sempre quello là? Lo Toscano. È a Puglia, già ci conosciamo, ve l'ho visto anche l'altro giorno, cliente del nostro. Sì, perché abita a Sassari, Robè, abita a Sassari e quindi l'ho visto l'altro giorno, l'ho da Fusaro, lui abita a Muro, però c'è una casa a Sassari, abita vicino a Fusaro, infatti io che ti al bar che non ho detto, lo ripeto, lo sa che sono venuto, ho detto, per pigliare delle cose, devo rientrare, non immediatissimamente, perché era imminente che avevo il servizio, hai capito, Robè, e quindi niente da, però, capito, ci vediamo spesso, qui viene, capito, perché c'è casa qui, però c'è anche casa Sassari. È una potenza lui, la casa tua, non è così? No, diciamo che dove bussa, però non le porte. È un bel trattato, diciamo, non diciamo altro. Lui è stato anche direttore dei libri, già lo sai. Già lo so, è una potenza, lui conosce molto mondo. Infatti, tu che io come ho trattato sempre bene, con la famiglia, hai capito, e siamo, però il paese non è molto questo, per la politica è molto diviso. Scappa. Poi, come si chiama? Ma dimmi una cosa, la strada di Ussi, quella strada nuova per andare a Ussi, c'è un biglietto all'inizio, non a Ussi, adesso non vuole dire Ussi, per confondere con la strada di Itiri, forse aiutami tu, c'è un bivio, dove ho letto Muros, dove andando verso Ussi o andando dalla strada di Itiri? Verso Ussi, dove? Andando verso Ussi tu trovi, come si chiama? Trovi a sinistra e poi ti porta dentro il paese, hanno un paio di chilometri, ti porta dentro il paese, ti porta. E però adesso lì non è, qui stanno ultimando la, come si chiama, la strada è un pochettino interrotta perché stanno facendo la piazza, la pavimentazione vicino a casa e quindi diciamo fino, penso, per un'altra ventina di giorni sarà così. Devono finire questa pavimentazione, quindi hanno deviato anche il pullman dell'arte e bisogna fare il giro da dopo il rifornitore della ESO, salire lì via per quella strada che poi, diciamo, per entrare nel paese si deve girare prima di arrivare sopra per il bivio di Cagliari, e siamo incasinati un po' noi, insomma. Lo so, poi diciamo lì ormai i soldi non ne girano più a Muros, quando c'era il cementificio già girava qualche soldino, adesso non ne frega più niente a nessuno, per cui tutti come si chiama, le vie di comunicazione sono un po' abbandonate, ho visto, le strade sono peggio che mai. E già abbiamo questo, come si chiama adesso, infatti la cementeria dava qualche, diciamo, soldo in più al comune, era definito all'epoca uno dei comuni più ricchi d'Italia, dicevano, e ci credo perché c'era questo introito dal cementificio, c'era, e capite anche un coro che non aveva all'epoca disoccupazione, invece adesso, come si chiama, è abbandonata la cementeria, non so poi adesso cosa hanno intenzione di fare, dunque. Però diciamo che ha paralizzato minimo 3 o 4 paesi, perché ha dato lavoro non solo a quelli di Muro, ha dato lavoro altri paesi, ha dato lavoro e la gente è entrata lì, è andata anche in pensione. Hai capito, perché c'era il boom proprio, venivano da Cagliari a caricare anche all'epoca, forse da delle prime, perché mi ricordo che venivano quei camion da Cagliari, ma adesso niente, non c'è più niente di roba. Adesso purtroppo con questo discorso del costo del cemento che arriva dalla Romania, che costa meno che pagarlo qua da noi, purtroppo le solite cose, all'estero le cose, la manopola costa molto meno, produrlo costa meno, per cui è il mercato della globalizzazione, come si dice, così purtroppo tante cose. Eravamo leader noi in certe cose, adesso siamo diventati noi il coso, andiamo a comprare noi le cose che abbiamo sempre prodotto noi. Ah, vabbè, è una cosa proprio quella da pensare, io mi sono puntato questa roba che con lì c'è, quanto te lo tiri lì, e lì bisognava puntarci, l'economia l'avrei fatta girare, se ci abbiamo la nostra lui, non le compro, anche se tu me lo vuoi di meno, io non lo compro, perché qui l'economia non gira più, robe, no, diciamo, si va e cerca, che c'è sotto queste cose che, hai capito, è una cosa da non credere, una cosa da non credere che io, se ti sto facendo un'ipotesi, se a casa so fare il pane, che buono che lo stavo da questa è un'ipotesi, devo andare a ordinarlo dalla Romania, capite queste cose sono lì. Il cemento qui, ti sto ripetendo che arrivavano il camion, allora ero piccolo, con il rimorchio agganciato, la Cagliari girava e ci stavano giorni chili buttati per caricare, perché c'era il bom proprio. Già lo so, perché esportavamo noi dall'altra parte, non dico dal mondo, ma dalla penisola si esportava il cemento, io mi ricordo la cementeria era famosissima, di tutta Italia venivano da tutte le parti a comprarla, il cemento nostro, non so se era migliore o portava di meno, questo non me ne intendo, però so che era molto apprezzato. Il cemento nostro mi sembra che aveva delle qualità rispetto agli altri produttori, non lo so adesso, io sono l'altro giorno che stavamo murando, siccome sto facendo la porta per il garage, il telaio, non mi sembra come quello di una porta, ma una battuta così ho fatto, mi ha detto già non lo dire, ha detto proprio così mi sembra che a me uno ha detto. E purtroppo questa roba, perché non è solo la cimiteria di qua, sono anche le altre che stanno andando in paralisi. E non lo so perché con il governo, ecco, dicono tu ce l'hai il cemento, tienitelo lì, non ce ne frega nulla, invece no, lo comprano, portano da fuori, hai capito? Ma mi sembra un'altra volta che esporte, io sto parlando di una trentina di anni fa che avevo lavorato con un'impresa, c'erano questi sacchi enormi che esportavamo noi il cemento nostro, non so dove, non mi ricordo dove, però lo esportavamo noi. E non lo so. Sinceramente è l'ultima cosa, e cosa dobbiamo dire di tutta l'elettronica che avevamo, tutte le cose che costruivamo, dalle radio ai televisori e tutto il resto, non esistono più, ma anche gli italiani non esistono più di elettronica, piccole fesserie costruiamo, eppure abbiamo degli ingegneri all'avanguardia mondiale che ce li invidiano tutti, purtroppo molti si sono messi in testa di andare all'estero, di lavorare all'estero, che sono magari apprezzati di più, qua in Italia che ne hanno aspettato le gambe, per non parlare poi del discorso del settore automobilistico, che quello è ancora peggio. Sì, perché poi questi qui hanno seguito, ecco, dove che io posso trovare lavoro, chi è che fa questa, allora anche qui diciamo c'è stato un po' robe e se ne sono andati anche, hai capito? Nulla, sta diventando più un paese, che non c'è niente, anche con la roba, il continente dell'Ilva, hai capito, visto che industria era quella, e purtroppo anche lì stanno tutto a rotoli. Non so, purtroppo, io spero che cambi questa questa situazione, ma ho paura. Purtroppo noi ci abbiamo già mangiato tutto, le imprese buone che avevamo le abbiamo distrutte, da parte sindacati, politici e cose del genere, abbiamo distrutto quello che ci invidiava tutto il mondo. Mi c'è rimasto l'unico marchio che ci è rimasto importante, la Ferrari, e mi pare la Nutella e la Barilla, per il resto siamo dietro a tutti gli altri. Anche gli spagnoli in questo momento si stanno superando, che erano dietro di noi anni luce, purtroppo nell'elettronica anche gli spagnoli ci hanno in certi casi superato. Senza andare molto lontano, qui c'era Ducati, una casa storica di motociclette, di cose da aprire che ce l'hanno comprata i tedeschi, non so se produrranno le moto come, capito, venivano prodotte a Bologna, di quello proprio, insomma, dicono che hai capito poi la moto, dunque, no, la moto è tedesca, non è più la Ducati italiana. Oh, c'è da dire, nel male siamo andati bene, prima di tutto gli hanno dato una barca di soldi, ha fatto dei soldi che erano oltre ogni previsione più rosea, perché nessuno si immaginava che dessero mille, non so se gli hanno dato di vecchie lire, mille miliardi, una cifra esagerata, anche se il valore del marchio ne varrebbe, potrebbe valere anche molto di più, però era in grossa crisi, anche se vendevano, però la Ducati non se la comprano tutti, costa un pochettino, una moto abbastanza costosa, per cui non è un motorino tipo la Biglia che se la possono acquistare tutti, è un marchio d'elite, diciamo, per cui quando vendi 1000 moto, 3000 moto all'anno, a quei livelli non è tantissimo, perché c'è una ricerca, una tecnologia impressionante. L'Audi sicuramente la rivaluterà, perché ha delle, diciamo, avanguardia nella tecnica, lo dice anche la pubblicità, è un marchio importante, conosciuto in tutto il mondo, e la Ducati secondo me potrà solo migliorare. Il brutto se andava a finire ai cinesi o indiani o cose del genere, che non hanno nessuna cultura motoristica, non dico giapponesi, perché i giapponesi probabilmente se l'avessero presa loro l'avrebbero fatta morire subito, perché si metteva in contratto con marchi tipo Honda o cose del genere. L'unico discorso è l'Audi, per contrastare la BMW nelle moto, non aveva un prodotto su due ruote, per cui ha dovuto acquistare, e diciamo ha avuto anche per certi versi una buona resa avrà sicuramente. Ma un tempo anche producevano in Spagna la Ducati, c'era Motortrans che produceva motori spagnoli, non so se tu ne eri al corrente, ma io ho anche dei ricambi, hai capito, dei Motortrans, faceva i motori, hai capito, per lo Scambler, faceva per il Mark III e qualche roba del 750, adesso proprio degli anni 70, lì, hai capito, non già loro dall'epoca. Quando stavo andando male un po', perché è stata prima di prendere la Casignoli, la Ducati, non funzionava tanto bene, e quindi c'erano di mezzo gli spagnoli, capito, è andata a finire lì una catena di montaggio, che infatti io ti faccio vedere un giorno, se vedi, il carter della mia moto, del lato puntine, lato del colore della barra del cambio, c'è scritto Ducati Made in Spagna. Sì, vabbè, diciamo il marchio storico esisterà solo sulla carta, poi inizieranno a costruire anche Germania, tutte le parti, è normale, diciamo, la globalizzazione è così, è una cosa, non c'è niente da fare, anche tutte le marche ormai si devono allargare, cercare la manopera dove costa meno. Diciamo la Ducati è un marco abbastanza prestigioso, magari certe cose le continueranno a costruire, parliamo in parti di alta precisione ancora in Emilia Romagna, però poi non si sa il futuro. In Emilia Romagna c'era Coro che, diciamo, faceva l'autorizzato, c'era NCR, Massimo Del Biondo, che faceva, però stiamo parlando a livello di motori da corsa, hai capito, Robè, motori da corsa ormai, però noi stiamo parlando che è andata via a livello di moto, diciamo, per privati, capito, però i pezzi per quelle da corsa c'è questo preparatore che li produce lui. Speriamo che sia una cosa buona, Robè, perché diciamo a buttare via, capito, un nome che c'era da prima dal dopoguerra, hai capito, iniziato col cucciolo, con un micromotore, poi è andata anche le Massimoto, hai capito, adesso stavo, quelle erano prodotto, le moto non dispiacevano, solo che tu mi stai dicendo che i prezzi erano elevati e le moto non le comprava nessuno, quindi lì può avere anche creato una sorta di crinatura per la fabbrica ed è stata, diciamo, venduta, perché hai capito, se il prodotto non lo vendi, che tu c'è gli operai, capito, non puoi, hai capito, fare dei nuovi progetti, inventarne altri di cuore, ecco, non vendo quelli e non investo niente in altri progetti, anche quello ce lo vedo, ma auguro che sia una cosa, diciamo, positiva, più di congiuntura, però ripeto, la moto non è mai prodotta in Italia più. Non lo so, vabbè, quello che bisogna avere. Ormai stanno diventando assemblatori, le stesse case costruttrici, se tu controlli le macchine, chi produce, per dire, parliamo della Fiat, quello che guardi, di produzione Fiat, qualche particolare della scocca, qualche particolare strutturale, però il 90%, non dico 90%, ma almeno il 70% della macchina viene costruito da ditte esterne, da iniziare dai cuscinetti, sospensioni, ammortizzatori, braccetti, cristalli, panelleria, cruscotti. Non si costruisce più, ci sono almeno una trentina di marchi diversi all'interno del coso, della macchina. Per cui la Fiat forse si può produrre qualche, come ho detto prima, qualche fiancata, qualche particolare stampato, ma addirittura certi tipi particolari, tipo i portelloni in resina, i parafanghi, non li producono neanche loro, ci sono delle ditte esterne e se li fanno produrre da loro, perché costa meno. Gli danno le specifiche e loro lo costruiscono. Adesso mio figlio ha preso il Mercedes, l'ho usato proprio il 270 Station, e c'è il fanalino di dietro che era per affidato, beh, l'ha comprato, non so se di concorrente, ha preciso identico, lo bello, sai che non ci attacca il coso delle lampadine, la placca dove c'è le lampadine, e ce le abbiamo nella scatola in casa e non sappiamo come cavolo fare. Non lo so, purtroppo bisogna stare anche attenti, perché esistono quelli diciamo di concorrenza identici all'originale, per dire, prendi un fanalino, un proiettore della Bosch, della Valeo, della Siem, eccetera eccetera, sono identici all'originale perché vengono prodotti come primo impianto. Poi esistono le marche concorrenti di diversa categoria, per dire, ci sono quelli che rispettano le normative, dove sono quasi uguali, per dire, anche le connessioni sono precise, e poi ci sono quelli di scarsa qualità fatti nei paesi dell'estero, nei paesi asiatici, che molte volte per appiattare la lampadina, l'assemblaggio della lampadina, per accendere le luci e ti trovi il faro sparato, non riesce a regolarlo, per cui bisogna stare anche attenti a quelle cose lì. Oh, qui non ci fa proprio, diciamo, nessun portalampi. Si interessava qui là ad averlo, ho detto, mi sembra che quel paralino te lo tiri a soprammobile, perché è già arrivato più di un mese e mezzo, robe, e siamo ancora aspettando che vanno. Tutto il paralino è preciso, dove attaccano le lampadine no. E ho detto, almeno di concorrenza mandate il corso, ecco, non si trova, bisogna, non so, cercare, fare, e intanto non l'ha pagato molto, mi sembra che una trentina di euro, e quella roba mi sembra, anche oggi l'ho detto, quella è roba che rimane a soprammobile, roba in casa. C'è qualcuno che vuole entrare avanti, che vuole entrare? Fabrizio da questa parte. Ciao Fabrizio, ben sentito in compagnia mia e di Gianni Capri 2 da Muro, se te lo rilancio così ti saluto. Ok, ciao Gianni Capri 2. Ascolta Roberto, sto riparando un 440 che l'hanno dato per morto e l'hanno buttato, e invece non credo che era un grosso problema. Praticamente volevo sapere, vabbè, sono col microfono normale, come sta uscendo, se sta uscendo di radio, se ti sembra ci sia qualcosa che non vada. Assolutamente no, ottimo segnale come al solito, vabbè, siamo molto vicini, la radio c'ha le tonalità del classico microfono palmare, va benissimo tutto, niente da eccepire. Puoi fare un colpo di coso, di fischio, per vedere se c'hai anche dei picchi positivi, te lo posso anche dire. A posto, picchi positivi, per cui la radio sta funzionando perfettamente, non so quanto stai pilotando, comunque segnale qua è 9.45 con picchi a 9.50. Va bene, allora va tutto bene, l'unico problema adesso è che non c'è, non ha BF, perché non sta uscendo audio, zero, come ci sia morta, però era un po' tutta morta, adesso sta uscendo come radio, 100 watt di là, dove per il resto sta ricevendo tutti i segnali senza problemi, però non esce di audio, per capire cosa sta succedendo, là. Però per il resto è a posto. Da questa locazione sta andando tutto bene. Questo tuo, cioè quello che hai visto tu, è mezzo impazzito. Per dire, oggi ho attaccato e è andato alla prima tutto perfettamente. L'altro giorno stava andando bene, poi l'ho riacceso dopo qualche giorno e lo stesso c'era intrippato, poi scaldava, dopo 10 minuti ritornava a posto. Poi oggi ho fatto una prova in un altro modo, l'ho messo in banda laterale, in partenza all'accensione, ho preso il partito e è andato tutto bene. Infatti non riesco a capire la logica di questo apparato. Non c'è una logica, lo devo controllare, lì è un, ci sono delle saldature false, punto, non è altro a questo punto, se bisogna, se lo fa freddo, io ho anche la bombolettina per raffreddare, trovare il difetto, localizzare, smontare la scheda e rifare le saldature, guarda, al 90% è solo quella, perché quando si rilancia il PLL io pensavo che fosse il, come si chiama, fosse quelli che abbiamo tarato, vabbè, sono molto furi, e invece non è quello lì, quindi bisogna fare queste prove. Cioè, vabbè, quando sarà un momento opportuno, quando vorrai tu me lo dici e poi ci mettiamo d'accordo, che poi tienimi da parte quella panolina, ti avevo detto se non l'hai già data. Beh, quella è dato tutto insieme, capito? Vabbè, pazienza, se ne capita qualcosa. Cos'è, hai dato un colpo importante, riprova un attimo Fabri. No, forse sta fischiando perché sto ricevendo col baracchino, trasmettendo con la radio. Ma praticamente funziona tutta, vabbè, poi la proverò in banda laterale, le altre cose, perché se è stata la legge dovrò fare un qualche allineamento. Ok, scusa Gianni, stavo facendo le prove, riprenditi il microfono. Chiocco giù. Oh, ciao, Pomponio. Buonasera Fabrizio, non qui da parte mia. Aspetta un po' col processore, dimmi cosa succede col processore. Ora. Allora, siamo qui e ho aumentato parecchio. Scusate un attimo, sia Antonio che Gianni. La facciamo la prova a Fabrizio col processore, avanti, Fabrizio riprova. Non so se il processore, però magari è troppo, non lo so. Dimmi un po'. Sei molto vicino alla bocca, sicuramente, allontana un pochettino e parla normale. Allora, adesso sono col processore e sto provando col processore, col microfonino palmare. Benissimo, perfetta, niente da dire. Non è cambiato niente, è migliorato un po' più forza la modulazione, va benissimo, ne è senza da difetti. Allora, vi ascolto, provo a capire questa storia dell'audio, così vediamo un pochettino se riusciamo a farla parlare anche a lei. Adesso volevo dire una cosa al volo a Antonello, se mi risponde. Avanti Antonello. Qua sogno, dimmi tutto. Mamma mia, chi tu mi devi che mi pare che della cosa della polizia quando si fermano le moto, delle volanti. Dico la roba mia, niente mi dici. Io non metto di quella storia lì. Mentre facciamo sapere qualche cosa. Detto, vedi tu, detto, se trovo bene, detto, con l'antenna, detto, lui, detto, te la prende, però, detto, vuole spendere massimo, detto, 40-50 euro, non ti più, detto. E vabbè, ti faccio sapere qualcosa, mi ha detto. E vabbè, se li vuoi fare, se no, pazienza, poi mi passa la buglia e la cerco da un'altra parte. Ok, avanti Gianni e riprende il microfono. Ok, riprendo io. Come va, Pompo? Buonasera. Ebbene, a parte il ginocchio che fa un bel male da ieri. Sali scendi, mi faceva male un bel ginocchio, non lo so. È un casino, non riesco più a fare le scale con questo cavo, oggi mi fa un bel male, bisogna che vada a controllarmi, devo avere qualcosa all'interno, che non è possibile. Capito? Rischio di cadere dalla scala quando... E poi cammino anche un bel male nel tetto perché non so neanche come mettermi, a volte se metto lì per appena il coso male mi fa un bel male, capito? Ma vi dico un poco, provate a collineare Gianni. Perfetto, strumento suo originale che ho messo. Hai visto, già va bene, te l'ho detto. Hai fatto buona falla per quel pezzo lì, Poi vado, mi trovo con sé, al limite, e te lo tieni di riserva, come te l'ho detto io, ma il coso è suo. E esce bene quel lineare, perfetto. Vedete il condensato di quanto sono piccolini, in confronto a quelli originali grossi. Sì, ce li ho del cambio, quelli originali grossi, dici tu. Ce li ho, Antone. E ok, no, va bene, Antone, no, ce l'ha bene, come si chiama, lo trovo con lo strumento, ce l'ho. Hai capito? Adesso c'ho quello, c'ho l'altro, il BB 2001 a sistemare, hai capito? E quando ne ho voglia, sono sempre da una parte all'altra, sono... Hai capito? Però quelli, diciamo, quando ci sono i minuti liberi, io me ne vengo qui alla radio, perché lo sai che la mia è una passione. Ripeto, prima è Deus, una via da nonno, voi non sono stato, prima è il lavoro, però quando ci sono due minuti liberi, no, mi serviva Antonio, una roba a ballo, quello là si inceppava ogni tanto, glielo sai, che usciva male la modulazione, capito? Ok, questo va alla grande, riprendi Antonio. Non credo che la grande, l'ho usato io per un po' di tempo e va benissimo, non salto, non è niente. È un bel lineare, è veramente un bel lineare quello. E la verità è quello che sta succedendo, quando ho pensato che con i stati piccoli mi sono spostato quando l'ho acceso, mi non sei sostanziale del tutto. Già ho avuto esperienza con un lineare, quando lo fare un prospero. Abbiamo cambiato i condensatori, gli ho messo altri originali che mi hanno dato dal negozio. Dopo 10 minuti mi l'ho acceso, ho detto che è bello, adesso funziona. Mi sono allontanato, sono uscito fuori, un bel bravetto di tornamento, un coso, un ruolo di roba bruciata c'era. Roba vecchia con i sattori che mi hanno dato la fusata, tutto quanto si come badi se so. Senza neanche usare la trasmissione, figurati. Sì, quelli del 2001 si trovano. Spero di sì, ma non penso però, te le ho fatte anche vedere come sono. Quelli sono tutti da cambiare, quei cosi, quei condensatori. E vabbè, già cambiati noi come, riprendilo bene. Sì, che cos'è che lineare che matai? Il BB 231 sono usato, ma c'è anche l'altro, quello grosso, cioè che ci vogliono due valvole, però vuole, diciamo, i condensatori sempre meglio quando rimane fermo a controllarli, hai capito? Non si sa mai, perché proprio è la cosa più che pericolosa, che come è successo una cosa tra l'altra una volta. L'avevo tenuto fermo, Robe, accendo una bomba, si era scoppiato un condensatore grosso di quelli cartaceo, ma una bomba mi ha detto non serve più, poi ho controllato. L'ho procurato, il condensatore messo non li ha più fatto, no, quando rimangono fermi sono pericolosi i condensatori. Lo so, allora, le valvole bisogna conoscerle e sapere tutti i limiti e i pericoli, perché troppa gente ci mette le mani, ci sono altre tensioni, non ce la scattare quella qua. Per quello io dico sempre, a livello qua di uso normale, meglio andare sul transistor, sei più sicuro e tutto, e hai meno problemi. Naturalmente parliamo di apparecchiature, la privilegiata della transistor di livelli importanti, perché ci sono quelli che vendono dalla ZG, che il 90% sono giocattoli, poi tutti vengono strapazzati pilotandoli con potenze esagerate, per cui saturano e creano problemi di rientro, eccetera, eccetera. Meglio tenerli sempre al minimo della potenza, tanto farne 50 o farne 80 a livello di resa in antenna non è che cambi più di tanto. Infatti quello, vabbè, e infatti il pilotaggio è molto importante, molte volte da pilotarlo troppo si rompe, perché è già successo, però io ho già i pezzi di quello, un sacco di volte l'ho riparato, quello piccolino dallo Santo Medio, però niente, a valvola è l'unica cosa bella, l'area a valvola. Bene, riprendi Pomponio. Ma lo sì, l'area a valvola. So che io più di 500 ho posso dargli nell'antenna, e no come una volta 600 volte tondi. Vabbè, adesso non c'è più le cose, non ne frega più niente, devo usare questo attivato, la verità. Quindi basta anche un 300, per dire, vanta, c'è anche per i pulci. quello ce l'hai attaccato adesso, allora Gianni, quello del BVC 31, lo si dice adesso. L'ho attaccato, ce l'ho come segnale, qual è il segnatore? 1-2-3, 1-2-3 prova. 6-9-20, 9-5 per l'amplificata. Ma qui sono perché si è agganciato, vedo da di tu. E quello mi interessava, no, lo sto andando. Adesso provo, ha capito, poi non è che se devo modulare con voi, che siete a un tiro di schioppo già nel luogo, e così. Volevo dire qualche altra cosa. Capito, anzi, volevo dire a Tole, ma quanti batti dà quel lineare? Il 131 o il 2001? Il 131. 130-150 watt massimo tira, non di più. Dipende da quanto lo piloti. Sto pilotando con questo, sto pilotando. Vediamo un po'. Allora, vediamo. E con 3 watt e mezzo mi sta pilotando. Perché c'ho, come si chiama il baracchino, c'ho 3 watt e mezzo. E all'incirca sullo strumento, quando soffio dai 100 vai verso 200 qua. Già va bene, non è solo cosa originale, non preoccuparti. È perfetto, guarda che la valvola è perfetta. Io ho usato, già l'hai visto con 680 e usciva benissimo, non mi dava nessun problema. È un bel lineare, è un bel lineare. Se l'hanno giocato non è un bel lineare, 100 watt gli devi tirar fuori. Per far scaldare lì, se c'è per lì state le base di quelli piccolini, cioè di quelli antichi lì. Li metti quelli là lì sei a posto. Lo piloto con 10, già le sopporta. Non esageriamo Antonio, se non è che dei 10 sono condensatori. Ok, riprendi, non vedi. Ehi, avevo un attimino distratto, non ho ascoltato bene il discorso. No, il discorso di questi coso qua, come ho detto prima, stare attenti ai pilotaggi, senza esagerare mai, perché tanto è inutile e poi fai danno. E c'è una porcheria di suono, ti inizia a saturare, eccetera, eccetera. BV 131, quanti ne dà, Antonelli, va? Un centinaio, quanto hai detto? Entra una 150, dipende da quanto dei piloti. Comunque sia, c'è bene, c'è chiaro. Io l'ho usato con 10 watt e quello di 680 e non si notava manco c'avevo il 680 agganciato. Figurati. Mi davano per i watt e usciva chiaro che era modulazione. Già l'hai visto. Io guarda, sinceramente non ne ho mai utilizzato, io dico sempre, a meno che non vuoi fare cose particolari, e poi a quel punto lavori con l'antenna, ti metto una direttiva. Perché le potenze normali vanno più che bene, poi se ti vuoi far ascoltare in America è inutile che tu ti fai ascoltare in America e non senti a loro, io la vedo sempre così, è preferibile lavorare sull'antenna e basta, trovare una buona posizione e lavorare in antenna, perché se c'hai 1000 watt e c'hai un'antenna a filo non fai niente, se invece c'hai watt e un'antenna ad alta resa la musica cambia. È logico, l'antenna ti può dire molto. Se c'è 5 watt c'è una bella un'antenna che c'ha un bel elemento di moltiplicando i cosi che c'hai e raddoppiare i watt di uscita. Questa invece quanto invece c'è in trasmissione, la cosa è logica, più elementi ci sono più guadagno c'hai. Infatti, come diceva Natalino, meglio spendere un dollaro sul baracchino e 1000 euro sull'antenna che viceversa. Anche se è poco ma sicuro. Come un impianto hi-fi, tu ci puoi avere il più bello amplificatore del mondo, ma se non hai casse che riescano a rendere il suono, non fai nulla. Meglio viceversa avere un discreto amplificatore, ma delle ottime casse. E per avere anche un'ottima assicurazione se le metti in macchina. Questo ti butta via le casse, la macchina la lasciano davvero smontata. Cappa. Avanti Gianni. Infatti noi anche in campo musicale, hai capito, le casse sono molto importanti, perché proprio le abbiamo sperimentato, che avevamo diciamo l'amplificatore buono quando erano passive, però poi cosa succedeva? Andava diciamo il suono in casse con che avevano dei buffer e dei tweeter di queste cose che non erano diciamo di alta qualità, e quindi inutile che noi avevamo un impianto buono di fisarmonica, di cose, quando poi diciamo le casse non riproducevano il suono come doveva essere riprodotto, capito? Non era molto fedele. Quando le casse non servono, anche il suono non serve. Te lo divido al 100%, lo so perché sono appassionato di alta fermezza, stasera con un amico peggio di me, che questo è un cultore dell'alta fermezza, cioè è un collezionista oltre che cultore, ma quello che c'ha di roba ti mette le mani in testa, è un collezionista di apparecchi di alta fermezza, dai giradischi agli amplificatori alle casse, mi ha portato un elenco, ti mette le mani in testa cosa c'ha di valore questo. A proposito di quella roba lì, se vuoi venire a casa ti guardi quello che c'ho io, te lo porti via. Cioè, ci sono due amplificatori, piatti di stazione, eccetera eccetera, te li guardi, mi fai una valutazione, poi se è interessante chi lo mi fa, posso anche dare, tanto insomma, è un casino che metto in camera, voglio pulire la camera e farmi una bella cameretta perché se no vedi un troiaio qua adesso, ci sono qui a Pandolazzi, capito? Stai rivolgendo a me o a Gianni? A te, se qualcuno è appassionato di quella roba antica, mi dico, degli amplificatori, doppie piastre, cose del genere, passi qua a casa, te li faccio sentire e poi se per caso qualcuno li vuole si li porta via. Cosa c'è? Dimmi in particolare che cosa c'hai. Vieni a casa e li vedi, c'ho delle piastre di stazione, sintetizzatori, due amplificatori, ciò. Vabbè, nel caso non si è bloccato, devi tu, te li faccio vedere e poi se qualcuno li serve se li porta via, perché mi sono fatto un togliere in questa camera, volevo farmi, poi di grammi la camera di questa roba qui. Ma è un casino, no? Hai capito? Sì, ma di che marchia degli amplificatori si possono sapere o non te li tu? Vedi, ti piace funzionare, qual è il problema? Poi se qualcuno ti interessa se li prende, 25 l'uno, cosa cazzo me ne frega a me, gli amplificatori. Poi magari costano anche di più, non di valutazione, basta che ho 25 euro, non mi fate proprio niente. Poi i sintetizzatori, eccetera, eccetera, la doppia piastra, e dopo li vieni e te li guardi. Ma vale. Poi una cosa ti volevo chiedere, ma il cognome tuo con la B inizia? B-T-A-U-2-T, so che c'è scritto bello. Allora eri tu, io ho avuto una richiesta di amicizia su Facebook, però non sapevo che eri tu, io a te non ti conosco, mi è sembrato un giorno di averti visto, cioè non ti conosco nel senso fisicamente, ho visto un'immagine tua, ho detto boh io questo non lo so, perché c'hai degli amici in comune con me, adesso mi stai confermando questo, per cui te la posso anche dare amicizia, perché era in sospesa da un po', però ho detto boh non lo so chi sia questo. capo, ho capito. Comunque su Facebook non ci sono tutti i miei amici da lì, perché il computer l'ho tolto, ne devo comprare un altro, quindi sono parecchio tempo che non aggiorno niente, capito? Comunque sono io, poi c'è mia sorella, se guardi bene, poi c'è mio cognato, siamo tutti assieme siamo. Che bella Antonella, chi è? C'è mia sorella, no, Antonella, c'è Giovanna, in pratica ha lo stesso cognome mio. Scusa, mi interessa la mia, Tolemi. Ma vabbè, non la conosco. Io quasi vedendoti da vicino, perché io sono un poco fisionomista, ma se ti vedo mi dico, mia Antonella, sei tu. Però, sinceramente, in fotografia non è che sia molto sicuro di conoscerlo. Invece sono io quello, brutto, poi ti faccio vedere, Antonello, come sono io, fotografato invece in un bar in via di Zeddo, con gli occhiali, bello, con la birra in mano, con la drea. Birra non deve mai mancare. Lo capisci il sassarese Gianni tu? Io lo sempre che lo capisco, perché io sono nato a Sassari, ho fatto due anni di scuola media e poi geometri, poi l'ho fatto con l'impresa, c'erano sassarese in mezzo, e lo capisco perfettamente, ed è anche mi fa anche ridere molte volte. Te l'appoggio. Non si ha appoggia mai niente, poi qualcuno può pensare male, magari poi quello che gli ha detto di coso ci può prendere anche piacere. Il periodo brutto adesso è questo, lo sai, ma da quando non c'è più Monti mi sa che un bel gente va a appoggiare per fare i soldi. Le dimissioni ha dato, non pensano ancora. Sì, che le ha già date. Infatti, chissà perché, tutti i titoli bancari sono scesi a zero. Prima ci guadagnavano un sacco di soldi. Adesso che ho capito che tassano le banche, allora sono scesi tutti i titoli bancari. Non hai capito nulla, Bruno. Ci abbiamo tutte in mano la finanza noi. Come cambiamo leader, sale lo spread adesso, vedrai, per un mese, tre mesi, sei mesi, anche un anno, vedrai, torniamo come prima. Quindi tutto quello che abbiamo pagato dell'IMU, dobbiamo proprio ripagarlo. Adesso comandano le banche e basta, il discorso è questo. Ci dobbiamo mettere la mano in testa, ormai il governo non esiste più, esiste solamente la finanza e basta. E il governo adesso già farò le elezioni, Antonio. E cosa cambia? Non cambia nulla, vogliono la multa e basta, forse non hai capito, vogliono il banchiere. E lo spread scende, non lo vogliono più a nessuno, né a Monti, né a Casini, né quell'altro, non lo vogliono più. Chi comanda è il capo la finanza e basta, non vedo di fa. C'è importante che non mi do questi stipendi, sennò canna a Roma e l'uomo volta a correre. Forse è stato a posto degli italiani come siamo adesso, a posto di mettere i soldi in banca, aver pigliato i soldi, aver tutti quanti soldi nelle banche. Stava tranquillo che sarebbe cambiato tutto, lo dico io. Non ci sarebbe stato più le spread, non sarebbe stato più i titoli bancari, non sarebbe stato più niente. Tutti i soldi, a posto di avere soldi in banca, tutti. Ognuno si mette i soldi in casa come prima. Tu stai tranquillo, le banche a uno falliscono. E si ritorna ai tempi di una lira a loro, guai, e subito non ti mettono la sanzione. Non sono di là a me. Ho tutto avuto, guarda, ti giuro, ma se dovessi ricevere i soldi da qualsiasi cosa, come li tolgono dalla banca, ci vengono direttamente in casa, mi dicono, no, i soldi li metti in banca, no, i soldi li porto a casa, ecco. A costo di mettere in realtà al cesso, però i soldi a voi non credo. Ma lei guadagna dalla... No, non me ne frega proprio niente, gli dico. A me interessa, non me ne frega proprio niente. I soldi me li tengo io. Quando non voglio andare a cosa, a pagarsi, vado a pagarsi con 50 euro, me ne pago sempre 50 euro. Anche se non ci guadagno niente, ma a me non mi diverto. Fatto. Oh, ormai non lo so che le scatole, mi sono proprio una cosa da non credere. Proprio da non credere che si pigliano, capito, interessi, mi corrono questo, glielo sa, non conviene più a tenere i soldi in banca, interessi che tu, diciamo, sei soldi in banca e poi i soldi tuoi stesso vengono tassati, questo te lo dico per esperienza e te lo dico, hai capito, vengono tassati i soldi e devi stare a parlare voi, dovrei andare a trivagliare, può capire su conto come ti vedrà prima, perché a me, altrimenti, anche se non li tocco, mi tassano. Siamo 5.200 euro, ogni mese mi arrivava questo foglio, di quanto ci avevo, di quanto non ci avevo, e a parte non sapeva proprio niente. Per un tratto, a un certo punto vado, avevo lasciato 200 euro di là, dico ma guarda che c'ho 200 euro, no, quelli, lei 200 euro di sotto mi ha detto, e tu vai a stare scherzando, mi ha detto. Sì, deve pagare, dice, tutti quei fogli che di conto che abbiamo portato a casa. No, ho detto, non vedo proprio un accidente, ho detto, non me ne frega niente. C'era, dice, questo, vedi che casa sequestrare, tanto non c'ho niente, ho detto. Sono in affitto, se arrangi, gli ho detto. Ci sono i cassoni a modello, tutto a casa, si prende quelli e si rivende, gli ho detto. Non è volato proprio niente, un accidente, ho detto, a lì. Però poi è cambiato la legge, e in pratica... non c'è più barra brutta, ma intanto le cose stavano così, capito? Comunque sia, se dovesse capitare che io dicevo soldi, sto dicendo, soldi in banca non li pongo più, niente, le tengo a casa, costa di metterci in garage, per dire, però soldi in banca non li pongo più, non me ne frega, anche se piglio per dire uno di milioni di euro. Come arrivano, me li trovo tutti fuori e me li metto in garage. Allora se sono di meno devo dare un fratto alla banca. La banca che lo sai con la gente che fa, ci gioca, dà interesse a me e poi si piglia interesse anche lui, lei. Quindi per non perdere il valore mi tengo dentro la garage a costa di essere catastraccia, non me la butto in un dono, adesso sono dimiso. Hai sentito Robè, dai che io ti dico una cosa, soldi a parte che non ero in banca, se ciò c'è una miseria. Un cliente d'officina ha messo 35.000 euro in banca, non sai quanto ha pagato a fine anno? Minimo 2.000 euro. No, no, dico, non gli hanno dato nessun interesse, perché con 35.000 euro uno si aspetta che gli diano un interesse. Tolto tutto quanto, le spese e tutto, ha dovuto aggiungere 1,50 euro. Quest'altro invece che ne aveva 50.000 gli hanno dato 2,50 euro di interessi, tolte tutte le spese. A ci pensi? 100 milioni in banca ti hanno dato 2,55 euro. La banca conviene soltanto se c'hai possibilità, dico, di manovrare i soldi, nel senso che ti servono tipo se devi fare assegni o carta di credito, se no meglio te ne tiri a casa, sei più sicuro. Nascondili bene, se no te li rubano. Ma appunto per questo, vai a prendere un garage in qualche posto, gli fai la mutatura come se fosse un appartamento, poi gli lasci come si chiama, intanto scendi giù e li tiri, senza dire a nessuno dove li hai messi, capito? L'unica cosa è fare così, intanto a te in casa non conviene, perché ormai sono tutti dove di solito si tengono i soldi in casa, dietro un quadro, oppure dentro qualche altra cosa, in casa non si tiene niente. Te garage, al limite è più tranquillo, sottoterra, gli fai una specie di cosa, sotto gli metti un tombino sopra, dell'ene, è finto, e nessuno sa dove sono. E tu sei tranquillo, ma come cercano? Lo sono metti dentro a parte scopo come ho fatto quello. E è morto, dopo che l'hanno voleva fare la rapina, non ha parlato per niente, c'erano tutti i soldi dentro a parte scopo e soffitta. Capito? Se no fai come quei cinesi che hanno trovato nel sedile della macchina, c'erano più di 2 milioni di euro dentro la imbottitura del sedile, non hai visto le fotografie? Quello lo fanno per portarli fuori, non per altro. Per poterli portare in Svizzera, in mezzo all'imbottitura della macchina, in mezzo. Li studiano tutti per portarli fuori, per non essere tassati. Non lo so. Purtroppo il pericolo è se succede la guerra civile e tutti quelli che hanno i soldi in banca vengono persi, perché succede come è successo in Egitto, dove non in Egitto, in Iraq e in Afghanistan, che sono entrate nelle banche e se ne è mangiato tutto. E succederà anche in quella guerra civile, non preoccuparti, non ci vuole molto, no? Non ci vuole molto a futtittini. Ormai la gente è stufa, non hai capito. Già l'ho capito, ma la gente stufa di andare a pagare che cosa? I problemi di altri no, non esistono. Andremo a fare le rapine nelle banche, come una volta lasciamo le banche vuote e siamo più tranquilli. Via. Gianni, riprendila. Ok, se non la stufa li metti in estate, Antone, come ti ha fatto quelli di Longicreda, quelle cavolate che vuoi, il livello ha acceso la stufa e hanno bruciato i soldi. No, la stufa non li metto io, ma c'è il posto se vuoi mettere soldi conservanti a voglia. Ci sono i tappeti nelle case, sentivo che ci sono quelle in quelle verità che avevamo costruito, c'è sempre i tappeti nel. Ma c'era un buco nel fianco dell'appartamento, c'era un altro appartamento a fianco, c'era. Non va bene. E se c'è il vicino almeno vuoi prenderti, più di 18, aveva fatto un buco l'altra parte del muro e prendeva il suo del fratello. E se puoi mettere anche, prendi le impianti sterili di quelli vecchi, lo apri e ci metti sul diletto, lo riempi e lo tiri a casa, intanto gli impianti sedi vecchi non li tira più nessuno, ma qua regalo, quindi li lasciamo lì. Quando frugano tra altre cose, ma cosa immagino i soldi sono dentro per dire un amplificatore, dentro una piastra. Vabbè, io ne ho tre di serio vecchio da buttare, ognuno lo crede, mi pare che io voglio un 100.000 euro dentro, quello lì. Guarda, io dico, detto da ai ladri, i punti più sicuri dove, come si chiama, dove nascondere i soldi sono nei punti meno, cioè nei punti più appariscenti, per dire tu lo metti in cucina, sopra il tavolo, nel coso dove ci piangi tutti i giorni, nel piatto dove metti il piatto, una cosa del genere, non ci vanno mai a puntare. Magari ti distruggono a casa, la camera da letto, sotto gli armadi, sotto il letto, dentro i materassi, poi magari glielo metti davanti, dentro un piatto, una cosa normale che uno non ci fa caso, non ci vanno a cercare. Perché così mai a la ragazza la mala sorse, se ne chiede neppure a chi era da curare, già li trova, ci sono soldi, già li fa saltare fuori. Aspetta, dietro subito, guarda, l'unica cosa che non fate te levare dai ladri, ti prendi una pastiglia per dormire, ti addormenti, ma così svegliano, manco morto. Allora ci si che ti interrogano domani, e vado lì, molto se io trovo buttati e cominciano a cercare non trovano niente, allora si stufano se ne vanno. Ok, e quindi siete del parere di non lasciare soldi in banca, così ero per. Dopo io li devo tenere, certo non ne ho pochissimi e molto pochi, però se devi comprare qualcosa non ti puoi portare contanti appresso, devi avere un assegno e cose del genere, purtroppo li devi avere per forza in banca, non c'è altro sistema per tenere per fare delle spese, per dire devi comprare qualcosa di, non dico di prezioso, ma mica ti porti 300-400 euro in tasca, devi per forza avere o l'assegno o la carta di credito. Infatti. E perché gente molte volte io liquidi non ne ho, ho la carta di credito e il blocchetto. Guarda, io la carta di credito me la sono fatta, adesso magari non lo sono da tantissimo che non la utilizzo, quando andavo fuori in corsi dall'estero, diciamo, che ancora non c'era per dire il cambio, c'erano i franchi, per cui dovevi avere la carta di credito, o dovresti portare dei soldi appresso, che poi era un problema a cambiare, eccetera, eccetera, che ti fregava. Poi quando c'è stato il discorso dell'euro ti portavi, cambiavi i soldi italiani, però per sicurezza me l'ho sempre portata, ho detto non si sa mai, ti capiti qualche imprevisto, ti si rompe la macchina o qualunque altra cosa, hai necessità di liquidi, vai e paghi direttamente con quella. Infatti, tu Antonio ne porti appresso carte? Sì, carta igienica. Per apparati. Come capita? Alleluia. C'è la crisi del sasso di tutto, non è vero. Ma crisi mi... Meno male, sei ricco. E nelle 14 euro, come stanno volando, cazzo, una presso l'altra. Altro che fare impianti primo, secondo, miscelatore, cose del genere. Tutti stanno comprando con l'antenna aspira il pesce. 14 euro, nessuno si è mai lamentato. Da quello di Polis ho schiacciato le a metà addosso, me ne volato, e se ne sarà una pulitina, era pulito però non voglio, e capito, meno male ci ho spostato la roba pulita, e quindi siamo pure da posto. No, il lineare va bene, sono una bomba, hola, quando picchi positivissimi. L'ho anche tinto il pannello, roba, Antonio, ma veramente bene il pannello nero, che poi non era nero, ma è il pannello suo è verde e io ce l'ho. Ma lo sai, Antonio, non è che diciamo il pannello di questa roba è preciso, scusa, roba, all'alimentatore, mi sembra preciso quello dell'alimentatore che c'ho dagli champagne, possibile? Boh, la verità non lo so, comunque te lo sto dicendo io. La roba che si è pelato non si è mai lamentato nessuno, si è pelata roba buona. La festa non ha mai dato problemi, addirittura per quello che lo uso io, l'ho usato col C80, è molto molto, guarda, l'unico pazzo sono stato io. Potrei pilotare un BV131 col C80, con 5-10 watt massimo di pilotaggio, e la radio è completamente chiara, ma se non stavo nemmeno con lineare, te lo dico. E così anche con il BV2001, l'MK3. Sono le cose, per quello che sono, ti dico, per dire, guarda questo apparecchio qua, parla così e così e così. Ti dico, difetti e pregi, capito? E anche la valutazione, è fatto un affare con quella Ciccio. È quello che l'hai pagato, perché un BV131 nuovo, con i condensatori vecchi la paghi minimo 120 euro, quella la paga 80, e c'è condensatori nuovi c'è manco santo in aria. Quelli vecchi purtroppo, io lo sai, sono in cartone, li avevo visto più del 2001 quando c'ho qui, e sono da cambiare, e qui sono già 15 euro di condensato che avevo cambiato, più 25 dello strumento, figurati, e lui da 2080, non c'ho guadagnato neanche molto, e, per dire sono 20 euro di aver fatto il lavoro. Non ci vuole proprio quasi un cazzo, la verità, su quel lineare. Però sono contento che una cosa per fatto, cioè che funziona bene, sono di là, riparo l'altro. E così glielo do e tranquillo venire. Perfetto, perfetto. Ok. Oh, funziona bene, lo strumento originale, però lo sai che io sono un pignolo, e capito, l'ho ripreso lo strumento originale, perché ce l'avevo, anzi di questi lineari c'era un amico mio, uno a provare, che c'era bruciata la valvola, le valvole mi sembra che ne ho un paio di queste, hai capito, non ce le ho qui, però ce le ho. Hai capito? Perché poi non lo fanno più, mi ha detto Antonello, quello che di Fusaro, ha detto lo sai, ha detto già che non lo fanno più. E ho detto, se lo stai dicendo tu, ti credo sulla parola. Hai capito? Ogni cosa cessano anche di farla, ne faranno qualche altro migliore, non lo so. Comunque, tornando al discorso, non mi posso aspettare, riprendi, vabbè, il segnale è buono, lo sembrerò bene. Sì, non ti preoccupare, sono stato a me, sto a posto. E a Torello arriva molto più forte di me di dare le tue coordinate. Allora, io sono liscio, sono con la 3009 naturalmente, ma stato che non ho scorso a campo. Non passo, uno, due, tre prove. E col microfono salerta. Ora, quattro di più. Vado a poi segnale, già, e poi vado in quello di Roberto. Ok. Diciamo adesso tu sei a picchi di nuovo quasi a 9.10, prova Roberto. Ora, 1, 2, 3, prova radio, attenzione canale 10, prova radio. Sì, sembra così, appena Pomponio, di appena. Passiamo lì, No, ma me lo immaginavo, lui è tutto aperto, lui c'ha di fronte, io sono almeno, senza esagerazione, almeno 50 metri più in basso di lui. Lui c'ha l'antenna diretta verso te, tutto aperto, io c'ho roba dietro. Può dire che c'hai roba dietro, è brutta come espressione, e comunque break. Buonasera anche a lì, è stato bene di lociare che qualcuno capisca, ma dietro parliamo di palazzi, non parliamo di altro. Guarda, c'è da preoccuparsi, saluto te e Gianni Capri 2, poi non ho sentito nessun altro, ma c'è da preoccuparsi quando oltre a avvertire qualcosa dietro senti anche un respiro dietro, allora c'è da preoccuparsi, ciao Roberto. È vero, i respiri poi sono reciproci, uno è un respiro di dolore, l'altro è un respiro di piacere. Ok, cambiamo argomento, comunque sei in compagnia mia di Gianni Capri 2 da quel di Muros, e qua più avanti di me c'è cosa, l'amico Antonello. Avanti Antonello per salutare. Sì, già va bene, io piccolo solo, non posso farci altro io. Col 2009 va bene, batte e avanza a uscire. Tu vabbè, sei più basso di me, quello c'è, è vero. Da me a te ci saranno, no, 50 metri non ci sono, da. Ahí ci sono, se no, 10 metri in meno di altezza, un di più. Qual è il punto più alto, sempre il palco che facevo io a fianco a me, per dire. Quello sì che è molto più alto di me. Lì già esce bene, perché cambia anche l'angolatura, la verità. Io sono tappato, lui qua, sono molto molto tappato. Come sei tappato anche tu. Tu sai cosa mi, tu c'hai tutta la tonica, però non devi tappare per certi punti. E io lo stesso. Poi non lo vediamo, poi stato in verità tu, sei stato cambiato le cose, te lo dico io. E no, appena più basso di. Diciamo come cose, da via Milano, però ci ha avuto offerto. E cambiavano le cose, cambiavano veramente molto. La rimpiango quella donna, verità, perché parlava così a tu Sardegna come se fosse una telefonata. E Gianni da solo di cosa parlavo con Giovantuno, un'acido provincia di Cagliari, con il passo di Codebui verso Antonio di Nuoro, con Antonio Salvaggio di Benetutti. Al fianco parecchio con noi. A parte il tempio, vabbè, sentivo e mi sentivano con Gabriele quello che mi parlava il telefono. Qua invece sono molto più in alto, ma sono tutto molto tappato. È come avere un muro dietro e non ve la voce. Sono fatto non mettere per produttore, se non è fatto nulla di quello. Invece per produttore si è tappato. Perché c'erano i palazzi di fronte a me, di la Montegrappa e mi tappavano l'uscita. Facciamo riprendere l'amico Antonio, avanti Antonio. Padre Ruggero, stavo cercando, e poi rilancio a Gianni, stavo cercando appunto Gianni doppio room, non si è sentito che tu sappia, Roberto. No, io non è, vabbè, ci sono da parecchio in radio, però non l'ho sentito, ho sentito di sfuggito a Luca prima e basta. Padre Ruggero, riprendi Gianni. Oh Antonio, buonasera, saluto quella Capri 2 che ti super saluta. Comunque siamo da parecchio qui, eravamo io, Pomponio e Roberto, niente, non ho sentito nessun altro, all'infuori poco fa che l'ha detta, sono sfuggito anche Luca e basta, siamo già da parecchio e purtroppo non abbiamo sentito nessuno, però no. La frequenza è aperta per chi vuole entrare, riprendilo bene. Io tra qualche secondo devo lasciare, perché tra l'altro non ho neanche mangiato, riprendo il discorso dagli amici, non ho paura, non ho mangiato, se mangio qualcosa veloce, per cui vi devo salutare, scusami Antonio se non avremmo avuto modo di proseguire la conversazione, per cui cuoretti da parte mia, aspetto il finale per fare i saluti, ciao, aspetta un attimino che ti perdi. Sollevo nel salutarti, però devo sollevare un attimino una critica a tutte quelle persone che non hanno contribuito, pur esponendosi inizialmente, a che la riuscita di un'organizzazione, che la riuscita di un evento che secondo me era degno di nota, non sia andata avanti. Queste persone che si sono esposte, che poi non, alla fine poi non hanno partecipato a una riunione, io mi sento di non esserci stato perché persona che non gradiva determinate compagnie, non gradito da determinate compagnie, fiero che queste compagnie non lo gradiscano, però per amore della CB ho messo a disposizione materiale e tutte le cose che potevo materialmente dare. Come al solito ci si è messi nella condizione di voler dare orecchio a quelle persone che in maniera distruttiva hanno per l'ennesima volta fatto apparentemente, e dico apparentemente, fallire una manifestazione aggregativa che sarebbe servita alla comunità della radio. Io voglio fare questo monito perché sicuramente per le possibilità che ho questa manifestazione si farà, mi metterò anche nella condizione di mettermi la mia superbia da parte e aiuterò queste persone che, con cui non condivido il modo di vedere la vita, ma che condivido la CB. Quindi mi metterò nella condizione di contattare o Antonello o chi per lui e di portare avanti questa manifestazione. Vengo io purtroppo non potevo andarci, se no ci sarei andato ben volentieri perché avevo delle cose che immancabili che non potevo fare, da mattina presto tra l'altro, se no ci sarei andato ben volentieri. In ogni caso, se serve qualcosa aiuto anche eventualmente economico, non ci sono problemi da parte mia, poi quel piccolo che posso dare lo darò, non ci sono problemi. Altre cose di logistica posso anche aiutare se c'ho delle cose che potrebbero essere utili, per cui in questo discorso che parli tu, non so se ti stai riferendo a me in particolare o non lo so, io da parte mia, se c'è qualcuno che intende fare qualcosa, io sono il primo a aiutarlo. Beh, ti ripeto, lungi da me voler dittare chi che sia il fatto di non aver partecipato. Ho buttato una pietra in aria, ma giusto per fare un po' di movimento, perché davvero per l'ennesima volta mi sono ritrovato, perché anch'io avevo tempo addietro paventato una condizione del genere, tutta una serie di persone a dire facciamo, tiriamo, molliamo, la 27 si sta spegnendo, la 27 non so quale problema ha, e dopodiché poi dimostriamo che è bene che si spenga è bene che si spenga, perché se tutto questo è l'amore per la radio, da non poter superare dei piccoli problemi di interrelazione fra le persone che modulano all'interno della 27, allora è bene che si spenga, perché evidentemente non è fatto da gente che ama la radio. Il discorso che hai detto tu è bellissimo e giustissimo, però tieni presente, noi ci siamo in questo momento, stiamo parlando, per cui ci interessa che la frequenza rimanga. Poi tutto il discorso, chi vuole capire, chi vuole intendere, capisca. Assolutamente, assolutamente. Perdonami Robert, buona carica batteria e buon QRT, e ci sentiamo alle prossime se questo coincide. Avanti Gianni Capri 2. Fra l'altro QRX per me un attimino, perché sto finendo di proprio fare carica batterie, sono rientrato perché vi ho sentito. Avanti Gianni. Facessero né nomi né cognomi né niente, che è andata un po' deserta. Questo ha un po' disamorato le persone che in qualche modo volevano organizzare la cosa. Io per quel poco che posso gli dico coraggio di andare avanti e gli do ancora di più il mio appoggio tattico, tanto che se si è decisa quella data, che per me è una data ottima per poter andare avanti una manifestazione del genere, che è il giorno della Befana, credo quel giorno in cui ci sono fra l'altro i vigili del fuoco in Piazza d'Italia, quindi ci sono molti bambini, molta gente, molte famiglie, allora mettiamoci nella condizione di portare avanti la cosa, assolutamente. Non vincerà la distruttività di alcune persone, perché la distruttività non è data da quelle persone che non sono venute, ma da quelle persone che hanno detto a certe persone di non venire, tacciando la cosa come poco seria e cercando di metterla in burletta, perché queste persone hanno paura che la cosa funzioni, perché nel momento in cui funziona dimostrano che, non avendo partecipato, non sono parte in causa e quindi se ne può fare anche a meno. Comunque, ribadisco quello, il concetto che ho detto, rimango in QRX, riprendi Gianni e chiedo scusa per la dissertazione in merito. Io sono una persona che parla schietto, ho capito che non so bene nella lingua. Allora, penso che tu ci tieni tanto a questa manifestazione, caro Antonio, ti parlo come un fratello, ti parlo sono come uno che è questa sicurezza, perché non hai trovato il modo anche tu di farla un altro giorno e partecipare anche tu, punto di domanda? E io ti do una risposta. Allora, non so cosa ti riferisca a proposito di non partecipare. Per me non partecipare era dovuto al fatto che stavo partecipando con il meglio che avevo, nel senso che stavo fornendo strutture logistiche al fine di poter fare la cosa, e non, come qualcuno ha detto, come una zingarata, ma avrei fornito gazebo, avrei fornito tavoli, avrei fornito e fornirò tavoli, avrei fornito illuminazione, avrei fornito generatori di corrente, quindi non ci sarebbe stato bisogno di batterie, avrei fornito un'antenna, avrei fornito tutto quello che necessitava per fare la cosa, avrei fornito un volantinaggio atto ad avvicinare le persone e a spiegargli che cos'è la CB, avrei fornito dei cartelloni, tutto. Prima non avrei fornito però la mia presenza che, come ho detto prima, proprio perché in disaccordo con determinate persone, avrebbe creato forse dei momenti poco piacevoli. Ora fornirò anche quello, ora ci sarò. In manifestazione sull'annuncio di una cosa che si vuole intraprendere, diciamo, quelle cose si possono mettere anche da parte, diciamo, in compressione con delle persone, con tante altre cose, quello non c'entra nulla. Gianni, lungi da me voler criticare nessuno, non stavo chiamando in causa né a te né nessun altro, però vero è e strano è che già facciamo, tiriamo, molliamo, secondo come non c'era spazio in Piazza d'Italia da quanti dovevano essere, a che si sono ritrovati in tre. Questo non è, mi sembra poco carino, ma non tanto nei confronti loro, ma nei confronti della 27, nei confronti di quello che ogni giorno si dice, nei confronti dell'investimento che una persona ha fatto nel comprarsi i baracchini, nei confronti della critica che poi si muove a chi non fa niente per rientrare in radio. Dico solo questo, non volevo essere una critica nei confronti di nessuno, se non di queste persone in generale. Se poi ognuno ci si sente chiamato in causa, evidentemente la critica è anche per questo. Poi anche al fatto che stavi dicendo che persone che persuadono altra gente a non partecipare, quello non è assolutamente vero. E non ci credo io, perché ci sono persone che hanno la radio, che entrano con questa manifestazione con metodi distruttivi. Non ci credo, perché se no non amano la radio, hai capito? Gente che ha la radio, io penso che non sia una persona che vada a distruggere, non parteciperà, ci saranno delle cose, però non puoi entrare anche nella testa di un altro a dire tu non lì non ci devi andare, hai capito? Sono state magari che molte volte io ero lì a Sassari, ero vicinissimo, stavo chiacchierando, si è avvicinata con un baby baby fatto bene, sicuramente io non sto incolpando né te né questa persona con cui ti sei incontrato, che non so chi sia, però ti dicevo, proprio per non sapevo neanche che tu fossi a Sassari, sto dicendo esclusivamente che poi alla fine si sono ritrovati in tre, quindi non sto dando colpe a nessuno, non ti sentire davvero chiamato in causa, lungi da me, perché non mi sarei messo nella condizione di chiamarti se così fosse stato, se avessi pensato questo, ti avrei detto Gianni, ma come? Prima hai detto e poi non ci sei stato. Io Non mi devi dare giustificazioni che fra l'altro credo che siano più che plausibili, al pari delle mie, quindi io non mi tiro indietro, mi prendo le mie colpe. Però ti ripeto, proprio per questo motivo mi metterò nella condizione di comportarmi in maniera diametralmente opposta, nel senso che adesso partecipo, metterò da parte quelli che sono i miei bisticci, i miei cosi, e parteciperò anch'io. Non è solo diciamo che uno deve rimanere dietro, devi partecipare. E le persone anche si affrontano, se c'è qualche cosa si chiacchiera, diciamo, e si mettono le cose sul piatto. Io sono una persona che parla, capito, che parla in faccia, si mettono le cose sul piatto, riguardante però la roba della 27, non altre cose che non interessano la 27. Se uno va per la 27 tratteremo argomenti della 27, che è tutto lì, non è perché c'è quello che non si accorge, hai capito, diciamo, però io ripeto, non posso partecipare anche a cose che sono imbastite male, ecco, non mi posso misurare un vestito che il sarto l'ha imbastito male. Era un incontro, Anto, era un incontro, non era una manifestazione vera e propria, quindi era un incontro. Ripeto, non so cosa tu intenda per rendere idea, non so cosa tu intenda per abito imbastito male, forse nel senso che pensi in qualche modo di perdere, diciamo che la tua persona perda nel momento in cui sta lì presente a contatto con una cosa non organizzata benissimo. Io non è che perdo nulla, diciamo andiamo lì sì, per cosa stiamo andando, ecco, sappiamo già che la manifestazione si fa in sì, hai capito? Quindi c'è roba, possiamo invece andare lì, di bermi un bicchiere al mare, io ne ho avuto più di uno anche, tra l'altro, cioè come si chiama, tiro invece per questa parte, ecco, facciamo questo, quest'altro, pronto, già vuol dire che fatta la roba per il giorno, non è che io vado, diciamo, è a gennaio questa cosa, vado così a fare un incontro, quando sono già al corrente di come è impostata la roba, hai capito? Quante persone ci sono state ieri? Credo tre. Tant'è vero che volevo appunto che stavo cercando Gianni doppio room perché volevo ci relazionasse in merito a questo, ma ti ripeto, incontrarsi era un modo per dividere innanzitutto i compiti, per non farli gravare su una persona solo. E dopodiché c'era poi alla fine ben poco da fare, hai ragione, però il piacere di condividere un momento con determinate persone, per te che sei in pace con tutti, magari sarebbe stata anche una cosa gradevole. In pace con tutti, no, vabbè, non c'è niente con nessuno, se uno dice cosa io la metto subito a lui in faccia, non parlo, non mi nascondo né dietro ai microfoni, né ai capiti, io parlo in faccia, lo so. Però ero lì e stavo chiacchierando, diciamo, e poi venuta la persona, ho continuato, poi da lì sono stato e niente, hai capito, non c'è nulla di distruttivo come stai dicendo tu. Stavo dicendo, lo bene, perché non invitate anche i radioamatori a questa roba? Per i radioamatori, perché non vengono invitati? Perché non rendiamo partecipi? Ecco, noi facciamo questa cosa e vi invitiamo, perché il radioamatore è il papà del GP, hai capito? Il radioamatore, prima di invitare il radioamatore è un GP, perché non invitate anche i radioamatori? Copiato, Arturo. Ma no, scusami, allora hai avuto un lapsus perché hai rilanciato a Roberto. I radioamatori non lo so perché non sono stati invitati, ma credo gli sia stato fatto un invito ufficioso, non ufficiale, spero da chi sta organizzando la cosa che verrà fatto un invito ufficiale in seguito. E ti ripeto, io non è che non parlo perché sembra che mi nasconda dietro un microfono. Credo e spero che non sia stata riferita a me, è che le cose che nascono fuori dalla radio, i problemi che nascono fuori dalla radio devono morire fuori dalla radio, come si suol dire, i panni te li lavi a casa, per una questione è di evitare di coinvolgere gli altri e per una questione di correttezza, e anche perché poi alla fin fine gli altri, degli altri, dei tuoi problemi, tu intesi come miei, sto parlando in seconda persona, non gliene può fregare di meno. Quindi di conseguenza se con determinate persone ho dei problemi sicuramente me li risolvo a quattro occhi, non dietro un microfono, per non far sentire quelli che sono i miei problemi agli altri. Così mi è stato sempre insegnato ed è un insegnamento che perseguo sempre. Dopodiché per quanto riguarda i radioamatori, parte dal presupposto che io stesso sono un radioamatore, io sono un patentato, in attesa di nominativo, ma a tutti gli effetti sono un radioamatore. E dico una cosa, non mi sento diverso né più né meno da come ero prima. Quindi questo di classificare le persone in base al fatto che abbiano una patente o meno, io lo disconosco. Poi non lo so, io inviterei gli amanti della radio, non i radioamatori, gli amanti della radio, e quello lo siamo tutti. Infatti, no, ma come si chiama anche? Io, visto che si conosco gli radioamatori di Sassari, che mi si può fare, io non passo a parola, proprio il visto ufficiale, e con tanto di corno, e così ti invitati a, come si chiama, questa manifestazione che si svolge il giorno 8, nel luogo 8, hai capito, così, non così a passare a parola di quell'altro, ma è un invito ufficiale per partecipare, poi uno può dire, ecco, ma io non ci sono venuto perché non mi ho invitato, no, io ti ho invitato, ti ho mandato tanto l'invito, anche quello, hai capito, e niente, le cose, diciamo, tanto si fa, non si parlano in radio, hai capito, come stai dicendo tu, però per ogni altro, diciamo, anche gli altri devono essere così, perché non basta, diciamo, che uno si è educato in radio, che l'altro, diciamo, è maleducato e se ne approfitta, di capito, la gente, io l'ho trattata sempre allo stesso modo, hai capito, quando da parlare parlo in faccia, quindi nella manifestazione le cose devono coinvolgere, diciamo, persone, hai capito, che ci sono stati gli infermi, perché tu stesso l'hai detto, io non ho partecipato, per mi hai detto che c'è gente che ha avuto delle cose, mi hai detto così adesso. Assolutamente sì, però a mio modo ho partecipato fornendo quella che è un supporto logistico, e altro è invece chi non ha partecipato né con la presenza né attraverso altro modo. Però ti ripeto, siccome la libertà anche della radio ti mette nella condizione che se non vuoi stare in un canale ti puoi spostare in un altro, figurati nella vita, se non vuoi andare in un posto perché ti trovi male, non ci andare assolutamente. quello ti do perfettamente ragione, però vero è anche che poi non ci si può lamentare dicendo ma mi trovo da solo. Ti trovi da solo al pari di come la 27 si sta spegnendo, perché hai preso delle decisioni a monte, che è quello di non partecipare magari a una riunione come quella. Sì, infatti, la riunione si fa quando si sono delle decisioni già fatto, quando c'è una cosa, quella era un incontro, e poi ero sul posto, ho partecipato da lì un po' la distanza, ma c'ero, col pensiero che lui, in base a questo andò. Assolutamente sì, è un po' come un regalo, batte il pensiero, assolutamente. Dai già, assolutamente, guarda, nella vita non bisogna pensarla sempre nello stesso modo. Per discutere, per raffrontarsi con le persone, è bello che sia eterogenea la cosa, cioè la diversità nelle persone, quindi ci si raffronta. Tu hai detto la tua, io ho detto la mia, in maniera corretta e non offensiva, come si confà a un signore del tuo rango, perché io ti considero una delle poche persone con cui io sono sempre andato d'accordo e che si sa esprimere in un certo modo. Quindi assolutamente, va bene così, anche per farla in maniera diversa. Io ti rilancio il mic, dai, fai girare, io sono un attimino in QRX, ci sentiamo magari dopo se coincide, appena finisco di fare carica batteria. Siamo ancora qui, molto volentieri, ti auguro buon carica batteria, ricordati che hai capito, sono una persona leale, sono una persona leale che sono tanti anni frequenta, cioè anche io ce li ho i miei difetti, non sono un santo, mi atto, ce li ho anche io, però poi mi correggo subito, se ha fatto qualche cosa chiedo anche scusa, non sono un santo, mi atto, ripeto, comunque, ancora c'è tempo, poi vediamo da fare, buon posto, si riprendi. E dimmi, sono qua, tutto vecchio so. Quale galaxy stai parlando? Saturn Echo? Sì, esatto. Allora, galaxy Saturn Echo, sei tu che monta il 2169, se tu gli stacchi quel transistor li metti il 2312 che non è il suo, da meno watt. A parte se c'è qualche problema di qualche cortocircuito in un finale, ti trovi incappettato e bisogna cambiarli tutti e due. Capito? Se vuol dire che c'è un watt, il problema è quello. Forse ho capito a cosa ti stai riferendo, il difetto è quello lì, perché l'ho riscontrato io già da un apparecchio che tu sai, purtroppo quello è stato furbo, si è attaccato il 169 che costa di più e ci ha messo il 2312 a mettere in culo agli altri. Siccome c'era un pinino staccato e quando io l'ho rilanciato è sceso un watt, perché sono stati messi i finali che non sono i suoi, sono stati staccati da un altro baracchino, hai capito? Quindi automaticamente risulta che il prefinale dovrebbe essere originale e dovrebbe andare bene, e quando li metti due finali che non sono i suoi, che uno è in corto, quindi succede quel casino lì, quindi bisogna cambiare tutti e tre. A cambiare il 2166 e il 2169, perché questi finali qua li monta l'apparecchio che c'ha il Galaxy tutto, pare uguale, stessi finali monta, compreso anche il frequenzimetro. Sa se ci sono questi finali? No, purtroppo no, ne abbiamo ordinati e sono passati 3 mesi e ci hanno preso per il culo, quindi bisogna tirarli da fuori, gli originali. E a trovare i finali originali di quelli 1969, o procurare tre di quei lineari piccolini che montano quel finale, oppure trovare qualche Galaxy Pluto che magari ha altri problemi, i finali sono buoni, staccarli da lì e metterli direttamente, oppure un 2009, quello che aspetta un attimo il telefono. 25 euro l'uno. Ebbè Giulio. Sì, ciao. Così nel radioascolto. Sì, ma non posso parlare, qui c'è una televisione accesa. Veramente a quello che ho detto sono aperto a qualsiasi tipo di critica, Giulio, soprattutto a te che sei, diciamo, la persona più dotta per una questione, diciamo, di data di nascita, diciamo, sei il nostro fratellino grande. Se non la gente non è orgoglia, pazienza, cosa vuoi fare? Hai ragione. Ma scusa, oggi Gianni Doppio Rum proprio è evidentemente andato a pesca. È probabile, lo so, non ho sentito stasera, ma è anche probabile che possa essere andato a pesca. Lui piaceva la passione della pesca. Poi Roger, dai, rientro in quel Rix, ci sentiamo dopo. Ok, ciao ciao. Ci vogliono anche i prefinali per fare un lavoro come si deve, veramente. Se mai hai fatto sempre un lavoro coi piedi. Infatti sì, come si chiama? Perché io ho visto quello quando c'era l'apertatore cambiava tutto, quando si rompeva il finale cambiava anche gli altri, perché li ho visti io cambiati davanti a me nel baracchino e li cambiava tutti. Ma che microfono stai usando? È così brutto, strido, Turner più 3. Abbassa un po' perché è tutto quanto tutto. E adesso ho abbassato, come va? Così va meglio. Però in un altro modo stanca ascoltarlo. Ok. Quindi c'è anche tu il Galassi? Sì, c'è un Barney. Nuovo, però c'ha problemi nello stadio finale, e capito che non ne ho problema, si manda, si fa fare il continente, già ne conosco gente, solo che pensavo che si potevano trovare i finali a Sassari, ma no, non c'ero così esposto, non è che mi interessi più di tanto per il momento. Beh, ok. A Sassari non ci sono quelli. Io ce ne ho 4 nuovi, naturalmente me li tengo, perché possono servire a me, non so mai. Infatti, hai capito, no? Perché poi magari se uno ne ha bisogno il telefono li ordina e non ne hanno, non ce li hanno, anche quello c'è, giù, hai capito? Ah, è roba che non ho fretta di farla, è questa roba. Ok. Prova, se te li mandano. Non lo so, se te li mandano. Comunque, trovare già si trovano sicuro. E penso che in continente ce li hanno, e ma soprattutto chi fa le riparazioni, hai capito, ce li ha, che non è un problema ripararla alla radio. Non di certo. E cos'è? Non è mica una bomba atomica che bisogna messo trovato. È chiaro che la radio si ripara, è normale, no? Al limite, ma spedisci fuori te la mandano apposta. Sì, no. Stavo dicendo, quindi giù proprio ti sei dato in pensione, come stavo sentendo, no? Non fai più niente. No. Arrivati anche a una certa età uno si deve pur fermare, anche se diciamo poi la vita sedentaria diventa, diciamo, un pochettino monotona, hai capito, l'ho più abituato, e poi ma purtroppo passare fino a 100 anni la foranza per confermare. C'è sempre il modo come andare avanti, non è un problema quello. Sì, compagno, vediamo se c'è. Lui è entrato, Antonio? Al telefono ancora. Hai capito? E niente. Qui io ancora ne ho da fare per andare in pensione. Chissà se ce ne danno pensione. Vabbè, questo non si sa. Non lo so. Vabbè. Comunque, ho ascoltato gli ultimi 5 minuti del QSO con Antonio e devo dire che sono d'accordo con lui. Sì, no, non lo metto in dubbio, Giù. Non lo metto in dubbio. No, condivido pienamente sempre, ma già ci saranno modi per fare questa roba, dai. Hai capito? Ancora c'è tempo, poi il tempo sarà consiglio. Non è che ci vuole dare un lame in cacca da bordo per fargli capire certe cose alle persone. Infatti, io sento uno sotto. Antonio, tu sei? Che? Oh, Pino, oh, con Giulio Dona lo so, ma intende. All'intendere. E ok, un po' di passaggi così, che non lo so, ma con che ora è? Le 11 passate sono, quindi non è che mi posso trattenere molto, c'era Pompugno, qui stiamo parlando del più e del meno. Ok, e poi, intanto Giulio, ecco, anche io grande, ce l'ho messo sbadigliando. Però sempre una bella sola pinta di frequenza. E le fesserie sono, quando c'è quelle cose lì si lasciano a parte tutto. Ok. Te lancio a Giulio, riprendi, quindi condividi quello che hai detto Antonio Grotte. Sì, al 100%. Va bene quello che ha detto, non c'è bisogno nemmeno di aggiungere altro, perché lui ha centrato in pieno il problema, qual è e come doveva essere. Ok, ma col tempo le cose si possono anche sistemare, si potrebbero anche mettere a posto, e adesso lasciamo passare le feste, poi vediamo. Una questione, diciamo, che è una questione soprattutto di rispetto. Mi si è considerato che tutti lo sapevano, dunque, è andata così. E Giulio, te l'ho detto, hai capito, mi piace dilungarmi oltre. Adesso vediamo per il 6, dai, per il 6 se possiamo fare qualcosa, hai capito. E niente, Pomponio, se la telefonava, quindi dai. Così va meglio per me, no? Perché ho un problemino, abbassiamo un po'. sono riuscito a capire se entrava poi entrò, ma che c'era più robe. Sì, ero in ascolto, adesso non so se c'è ancora. Antucci, sì. Evidentemente non c'è. Se l'ascolto, vi saluto tutti che sono quelli due attaccati a questa cosa. L'hanno mandata come recupero il pezzo, invece adesso ora a fare un altro lavoretto sopra, capito? E gli abbiamo legato vita, poverina. Ok. Quello vuol dire fare il reanimatore, Fabri, soprattutto quello. Applicarsi e fare elettronica, applicazione elettronica. Di elettronica, è così che si va avanti. Va bene, ti saluto Fabio, anche io chiudo. Ciao Fabrizio, ciao Gianni, salutami Pinuccio, tanto io non lo sento, dunque lui non sente a me e siamo a posto. Riprendi Fabio e fai girare per Gianni Caprillo. Ok, riprendo io e faccio girare per Gianni. Volevo fare una prova, però non so che mi manda, perché ho provato a fare un po' di ascolto in banda ed è perfettamente in isonda. Volevo provare prima di stare lì, ho controllato la 36 MHz e quindi volevo vedere un attimino in banda, però non so se c'è qualcuno che può passare con una radio un po' centrata per vedere come riesco, che ancora in banda non ho provato. Io sono fuori di 50, dai. Il grondone, ascolta, spostati, mi disturbo se facciamo una prova qua prima di tutto. No, assolutamente, poi qua, ciao tu, vi saluto perché io sto chiedendo, ciao, riprendete pure. Ciao Giulio. Ciao Giulio, buonanotte, ciao. Ciao Giulio, buonanotte. A dove sei, Aldo? Sono QTH Rottweiler. Per quello che mi stavi lì a fondo scala. Ascolta, ti ho detto di quel 440 che avevo preso? No, negativo, racconta. Ehi, qua non fa, troppo scandaloso. Troppo scandaloso. Ascolta, e poi ti faccio uno squillo. Prova a passare in banda, fai favore, USB. Non fa niente, non no problem. Stato poi arreso notte, se non ho una patente a briciole. Dai, siamo lì. Fate la M. Ok, siamo IAM, in AM, spermi centro, quando ti vedo, ecco in AM. Abbasso, sta partendo, o non sta partendo questa vamp? Chi intanto ci mette? Qui c'è da fare anche quell'altra modifica, vai. Eccolo, ma perché c'avevi in ballo una radio? No, non era prevista, perché mi avevo indotto, tu sei con uno per lavorare con un 440, ma ne rientro un altro, io non lo voglio, eppure sembra che me lo tiri in orietta, vuoi? Ehi, cappa, e quando me lo regali? No, questo non lo regalo. Credo che sia un apparecchio, come ho visto, centratura, non so più chiaro, ma che poi proseguo, che c'è un altro difetto, però li devo anche ricoprire bene gli schemi, perché non si sta a capire cosa sta succedendo. E l'unica cosa che là non riesco a fare funzionare le cuffie e la colonna in esterna, è come che non esista, scollegata completamente. Deve essere qualche cosa, boh, devo guardare il mio schema, devo studiarmelo, così non so, non me l'ha mai capitato una cosa del genere. Non esclude niente, non si sente niente, capito? Capati Roger, dai, ti aspetti in alta frequenza e saluto gli amici che sono rimasti sul canale. Scusando perché abbiamo monopolizzato. Avanti, sui 1300. Ok, va, io saluto tutto, scusate un attimino, scusate tutti quanti, che per me è anche tardi, anche perché sono da l'1:30 attaccato qua, ancora non sono uscito da questo buco.